Allora, non ricordo dove siamo arrivati. L'ultima volta mi sembra che vi ho parlato di Foucault, vero? E dell'uomo. Ok. Allora, cerchiamo di riprendere meglio. Allora, vi leggo un pezzettino. Leggo un pezzettino di Foucault. Allora, il termine che usa Foucault per indicare le condizioni generali del sapere di una certa epoca è la parola greca episteme, che vi ho spiegato, spero, cosa sia, o no? Ma che bello, tutte le copie nuove. Allora, l'episteme, i greci chiamavano episteme la conoscenza sicura, la conoscenza certa. Ragazzi, non me lo mettete qua, perché poi arriva qualcuno dopo e deve firmare e non, dopodiché non firma. Allora, insomma, comunque, sappiamo che... Allora, l'episteme per i greci antichi è la conoscenza fondata, la conoscenza che ha una giustificazione. E la giustificazione per il pensiero greco classico è la ragione, cioè il discorso, il logos. Ovviamente l'episteme non è l'unica modalità della insomma, conoscenza, c'è cioè una conoscenza non altrettanto ben fondata quanto l'episteme, che è la doxa. E la doxa è quello che noi potremmo tradurre con opinione. Ognuno di noi ha un'opinione, ma capita spesso che le nostre opinioni siano delle solenni cazzate, stupidaggini, castronerie, farfallerie, chiamatele come volete. In realtà le opinioni, cioè le doxe, sono le uniche cose su cui si possono fare i sondaggi, eh? È difficile fare dei sondaggi sulle epistemi. Le episteme non sono sondabili, sono discutibili ma non sondabili. Allora, in realtà Foucault intende il termine episteme in un senso un pochino diverso da come lo intendono i greci dell'epoca classica, e cioè lo intende per Foucault l'episteme. Sono non tanto gli specifici contenuti, non tanto ciò che si pensa, diciamo, i risultati che si raggiungono nel cammino della conoscenza. Per Foucault l'episteme è la costellazione di presupposti del pensiero, cioè è tutto ciò che presuppone la conoscenza, è tutto ciò che è quello che noi chiameremo il quadro concettuale. Gli inglesi potrebbero usare il termine frame. L'episteme foucaultiana è una cornice, è l'insieme delle condizioni che rendono possibile l'emergere di certi, diciamo, saperi. Questo significa che l'episteme, dal punto di vista, spesso non è chiara neppure agli occhi di coloro i quali elaborano la conoscenza. In questo senso il termine episteme è più simile all'uso moderno del termine che si fa in filosofia quando si parla di epistemologia. L'epistemologia è una è un settore relativamente recente della filosofia, nasce più o meno tra la fine dell'Ottocento, anzi dopo, sì, nasce ai primi del Novecento, insomma, sì, sicuramente, ed è praticamente è una specie di risultato della filosofia neopositivista e indica la filosofia della scienza. Che cosa vuol dire filosofia della scienza? Vuol dire lo studio dei modi di pensare e dei presupposti di pensiero generali e filosofici dell'attività scientifica. Questo vuol dire che tutti coloro che fanno scienza sono epistemologi? No. Gli scienziati, la gran parte delle volte, non sono neppure coscienti di quali sono i presupposti che li guidano, se non vagamente quello di avere una concezione materialista o una concezione non finalista della, diciamo, natura, eccetera. Ma in genere chi svolge un'attività scientifica, il fisico, il biologo, i biologi oggi sono la comunità scientifica più agguerrita, quelli che fanno, diciamo, le ricerche più up to date, più del, come si chiama, la lama del rasoio, insomma, il cutting edge della conoscenza oggi è biologico. Sono quelli che manovrano più quattrini, sono quelli per cui ci sono maggiori investimenti, perché si possono fare dei bei brevetti quando si scopre un gene o si scopre, siccome ormai tutta la conoscenza è brevettabile, un po' brevettiamo pure gli algoritmi, e quindi tutta la conoscenza è brevettabile, ci saranno un sacco di quattrini quelli che riescono a fare la conoscenza, quindi lì ci sono i soldi. Ma questo vuol dire che i biologi sono consapevoli del quadro concettuale che influenza le loro ricerche? No, o perlomeno non sempre, qualcuno c'è che è consapevole, ma meno. Non occorre, non è necessario essere consapevoli dei criteri che ci guidano per fare un certo lavoro. C'è qualcuno, per esempio, che sostiene che sia possibile creare, per esempio, fare una scienza dell'educazione. Io personalmente mi sono convinto che questa è una bufala, però non lo posso dire ai miei amici che studiano queste cose perché si incazzano. Però per esempio io non ho alcuna coscienza di se esiste, dei fondamenti della scienza dell'educazione. Io faccio l'insegnante di professione ormai da un sacco di tempo, ma diciamo che valgono soltanto gli ultimi 7-8 anni. Perché sono quelli in cui faccio il lavoro che faccio adesso. Però per esempio io non ho alcuna coscienza, io sono totalmente incosciente, anzi addirittura come uno stronzo sostengo che non esiste una scienza dell'educazione, cioè sostengo che non esiste nessun sapere descrivibile della educazione. Quindi non ho un episteme io consciamente della attività di trasmissione del sapere che faccio. Addirittura sostengo una tesi paradossale, cioè sostengo che è impossibile insegnare alcunché. Allora dice, ma perché fai l'insegnante? Perché mi diverto a avere dei gruppi di persone che mi ascoltano e poi a controllare, insomma, a vedere che cosa hanno capito di quello che gli ho detto, che in genere non è quasi mai quello che ho detto io. Ma non è una cosa sbagliata questa, è giusta. Perché ognuno di voi, io sostengo che sia possibile imparare ma non insegnare, non è possibile insegnare, io dico questo, insomma, nel senso paradossale che non è possibile trasmettere conoscenze tali e quali da una mente ad un'altra. Il filtro della mente individuale e anche della mente collettiva, cioè dei gruppi diciamo sociali e immaginari e simbolici di cui tutti noi volenti o nolenti facciamo parte, condiziona la nostra ricezione di ciò che gli altri dicono. E ciò che gli esseri umani dicono è sufficientemente ambiguo, per fortuna che è ambiguo, perché sennò non ci sarebbe non ci sarebbe comunicazione e non ci sarebbe la possibilità di imparare, cioè la possibilità di prendere qualcosa che uno dice, elaborarlo e organizzarselo più o meno in testa e costruire del, diciamo, sapere. In realtà io non vi sto dando nessun sapere, cioè siete voi che costruite il sapere. Lo costruite nella vostra mente in relazione a quello che io dico. Vabbè, adesso questo era una divagazione. Nel caso in cui io sbagliassi totalmente e quindi gli studiosi di scienza dell'educazione non fossero dei mangiapane a UFO, come io suppongo, che possono cadere impunemente sotto la scure di Brunetta, e quindi fossero detentori di un vero sapere, in questo caso io sarei uno stronzo perché avrei addirittura rifiutato l'episteme di un intero campo, diciamo, conoscitivo, no? Questo per dirvi che addirittura è, vi ho fatto l'esempio di uno come me che fa un, diciamo, lavoro e che non conosce, adesso baro un po' evidentemente, è chiaro che un po' di robe di pedagogia le ho lette anch'io e non è che è tutta fuffa proprio, insomma. Però diciamo che non mi piace a me, insomma, perché penso che il problema è che io ho fatto una scelta di tipo economico, nel senso di economia del tempo, non di economia di soldi. Il tempo della vita è una cosa limitata, io leggo e studio le cose che ritengo più importanti per me, o quelle che capisco meglio io, o quelle che mi interessano di più. La pedagogia non rientra nei miei interessi, quindi ho deciso che non leggo più un cazzo di pedagogia e lascio tutto. Infatti tutte le volte che mi invitano in qualche facoltà di scienza della formazione mi sento molto in colpa, perché in realtà vado in un posto dove, di cui io poi parlo male, insomma, o comunque che di cui non condividerei neanche le ragioni dell'esistenza. Comunque, insomma, diciamo, l'attività dell'insegnamento ha una episteme, giusta o sbagliata che sia, ogni campo del sapere ha una episteme nel senso foucaultiano e il sapere in generale ha una episteme. La gran parte del lavoro di Foucault si è svolto nel tentativo di raccontare, indagare, spiegare non i campi del sapere, non i contenuti positivi dei campi del sapere, ma la loro episteme, cioè le condizioni mentali, sociali, collettive, evidentemente, perché di questo si tratta, non c'è mai un episteme individuale, ci sono varianti individuali di una episteme collettiva, che le ha rese possibili. Questa è la ragione per la quale Foucault sostiene che l'uomo è una creatura recente, che l'uomo è nato tra la fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo. Ripeto, non la specie biologica Homo sapiens, ma l'uomo come lo intendiamo noi, quell'insieme. Allora, il presupposto di tutto questo discorso di Foucault è che non esistono degli oggetti di sapere, diciamo, individuabili, oggettivamente esistenti al di fuori del sapere. I saperi creano insieme con se stessi il proprio oggetto. Si potrebbe dire, banalizzando forse un po', non so se Foucault sarebbe stato d'accordo su questa mia semplificazione, io ve la dico così, insomma, non esiste l'uomo senza l'antropologia, non esiste anthropos senza antropologia, non esiste uomo senza discorso sull'uomo, non esiste natura senza discorso sulla natura. E siccome per esempio la natura degli antichi atomisti, Democrito, Lucrezio, eccetera, è diversa dalla natura che ha studiato Newton, È diverso il discorso sulla natura di Galileo e di Newton da quello, degli da quello per esempio di Democrito, Leucippo e Lucrezio. Ci sono due nature, almeno due, in realtà 3, 4, 5, 10 ormai, nature diverse. Ci sono 1, 2, 3, 5 uomini diversi. L'antropos di Aristotele non è l'uomo, come lo concepiamo spontaneamente ormai noi. Nel momento in cui nasciamo, nei primi dagli 0 anni ai 6-7 anni di vita, facciamo 10, senza che noi ce ne rendiamo conto, noi assorbiamo una serie di saperi, di discorsi già elaborati dalla, come dire, società prima che noi nascessimo. E quindi guardiamo, adesso un tempo prima avrei detto leggiamo dei libri eccetera, in realtà adesso devo dire un'altra cosa, guardiamo dei programmi televisivi, cioè voi non io, guardiamo dei programmi televisivi, guardiamo delle cose su internet e in misura minore leggiamo dei libri e delle riviste in cui sono contenuti implicitamente dei saperi che già, diciamo, fissano in qualche maniera la nostra episteme. La nostra episteme è qualcosa che ci viene tramandato, è il quadro generale delle, diciamo, conoscenze. Allora, all'inizio delle parole e le cose, cioè esattamente a pagina 12, Foucault dice, no, prima di leggere vi devo introdurre altri due termini. Allora, proprio perché Foucault è consapevole che l'episteme è un fenomeno storico e quindi si crea, è connaturato a una certa cultura, Foucault non sostiene neppure che c'è una teoria generale dell'episteme, o quantomeno a lui non gliene è mai fregato di dircela. Ed è per questo che la prima volta che si legge Foucault si è addirittura indotti a pensare che lui sia uno storico e non sia un filosofo, perché ha un modo di dire le cose che è sempre, ci racconta sempre certi cambiamenti, certi passaggi, come una certa episteme è tramontata e ne è nata un'altra. E quindi io, la prima volta che l'ho letto, ed ero già molto più grande di voi, ero veramente convinto, cioè non capivo perché veniva messo dentro la filosofia. Il suo cazzo, questo, cioè, appunto, le storie belle, fatte bene, ma è uno storico. Poi ho capito dopo, che sono lento io a capire, quindi non siete giustificati pure voi se siete lenti. Non è... Allora, siccome lui ci racconta lo svolgersi e i cambiamenti, i mutamenti nelle epistemi, in realtà lui non è interessato alla storia in quanto tale, ma è interessato allo sviluppo delle episteme. Lo sviluppo delle episteme, secondo lui, lui lo chiama con due... Le parole per Foucault hanno sempre un significato un po' diverso. Quindi lui dice che occorre fare una genealogia delle episteme, cioè uno sviluppo del genos, del genere, non del gender, come del genere nel senso biologico, sessuale, biologico, culturale, di come il sesso diventa un fattore culturale. No, la genealogia nel senso di chi erano i miei antenati, insomma. Quali sono gli antenati? Qual è l'antenato dell'episteme moderna? In tutto le parole e le cose, Foucault è un trattato di genealogia o di archeologia della modernità. Come si è costituita la modernità? Cioè come... Allora, o è una genealogia, oppure, sono un po' diversi, hanno spiegato un pochino diverso, ma insomma adesso lo possiamo, oppure una archeologia. Archeologia, voi tutti sapete, è lo studio delle civiltà che hanno lasciato delle impronte materiali, delle tracce, come dire, materiali. Foucault la intende in un modo diverso. L'archeologia, infatti subito dopo le parole e le cose, subito dopo vuol dire due anni dopo, nel 64 escono Les Mots, Les Choses, nel 66 esce l'archéologie du savoir, l'archéologia del sapere, in cui Foucault esprime dal punto di vista del metodo il modo in cui ha fatto la ricerca per le parole e le cose, cioè spiega il metodo che lo ha, esplicita il metodo e lo chiama archeologia. È uno studio delle configurazioni culturali del passato, ma non nel senso dell'erudito, non nel senso delle cose che vi hanno detto, credo, per tutta la vostra vita a scuola. Le scuole italiane sono scuole particolarmente muffe, polverose, piene di gente che pensa che le cose valgano perché ci sono state. Le cose non valgono un cazzo perché ci sono state. Il passato è una bella pizza e soprattutto non conta un cazzo, non vuol dire niente in quanto tale. Il passato, se è veramente passato, è passato e basta. Il passato conta in quanto ha prodotto delle cose oggi, in quanto studiare il passato è utile per capire che cosa del passato ci è stato tramandato, è giunto fino a noi, se no che cazzo, cioè, se no uno si studia, si ammuffisce, va via a studiare, che cazzo, di Antonio Canova, potrebbe fregarsi di più di Antonio Canova se non perché poi ha dato origine a Brancusi, a Moar e poi a Giacometti e poi alle cose che dicono, e poi alle video installazioni, non a Paolo Rosa, che non è di quella linea lì, ma insomma altri. Cioè questo è interessante, capire come quello che è venuto prima di noi ci ha condizionato, capire come noi non potremmo aver fatto le cose che abbiamo fatto, non potremmo fare le cose che stiamo facendo se non avessimo una storia. Avere una storia vuol dire avere una grande ricchezza, eccetera, ma vuol dire anche avere un impedimento a volte dobbiamo liberarci della storia che abbiamo, a volte dobbiamo liberarci di questo peso opprimente del nostro passato. L'Italia è uno dei paesi del mondo in cui questa presenza ammuffita e sonnacchiosa del passato è più forte che in altri paesi, non perché qua c'era l'impero romano, l'impero romano è stato in tutta quanta l'Europa, è che per una serie di motivi storici molto complessi e molto particolari l'Italia ha conservato dal punto di vista materiale, ha un accanimento nella conservazione del passato che sfiora il patologico. E se voi pensate alla difficoltà che ha avuto un movimento ambiguo, eccetera, ma sicuramente interessante come il futurismo un secolo fa, il futurismo ha detto alcune cose di buon senso, semplicemente le ha espresse in modo un po' così, ma uccidiamo il chiaro di luna, mi pare un buon programma anche adesso, insomma, cioè in un paese in cui il Festival di Sanremo aumenta il fatturato dell'industria discografica, è un paese malato. Non c'è dubbio che sia un paese, il nostro immaginario è malato, un paese che continua a considerare Canova come il più grande scultore di tutti i tempi, è un paese malato, non glielo andate a dire a quelli di scultura di Brera 1 che si incazzano, però è così, insomma, questa è una cosa che ci impedisce di capire, insomma, la conclusione è che, come dire, l'Italia è tutta Europa, il paese in cui il settore delle arti tecnologiche è quello più trascurato di tutti, non ci danno una lira, non ci danno, a me non mi devono dare nulla perché tanto non ci danno, ma insomma a quelli a cui insomma servirebbero, per cui penso anche alcuni di voi, non ci danno una lira, non ci fanno lavorare, ci tengono come tali, cioè, se avete voglia fatelo, ma la vocazione dell'Italia è, qual è? Conservare sto cazzo di passato, conservare queste 10.000 chiese, poi non abbiamo neanche un po' di gotico, la cosa più interessante che ha prodotto un idea che è stato il gotico in Italia non c'è, vabbè, abbiamo il Rinascimento, tanto di cappello, figuriamoci, però gotico zero, cazzo, romanico a sfare, bruttino spesso, insomma. Roma, il gotico un cazzo, il gotico che abbiamo è schiacciatissimo, belle ogiva sesto acuto, non ce n'è mica. Voi male delitto, non ce n'è mica. Voi andate, fate quattro passi fuori, cazzo, e vi vedete. Se... Abbiamo mai avuto Gaudino, no, abbiamo avuto Sant'Elia, che non ha mai costruito un cazzo, vabbè, no, era uno interessante, ma non ha mai costruito niente. Sì, ho capito, beh, anche Gaudino è morto, non è che sia. No, però è morto dopo. Sì, e per lì sono tutti morti, guarda lì, al futurismo, realtà bene, perché sono morti giovani un sacco, eh? Cioè anche Boccioni, chissà cosa sarà. Pedro Carrà purtroppo non è morto giovane, purtroppo, cazzo, perché ha fatto 3 anni di pittura decente, poi, devo dire, una noia mortale, Campigli, anche Morano. Capisco, la fedeltà, una cosa, ho 4 bottigliette sulla cosa della finestra e tutta la vita dipinto queste bottigliette. Ho capito, sì, figuriamoci, io sono la fedeltà ai mondi interiori, è una roba, lo devo, però, cazzo, insomma, io non posso continuare a dipingere. Cioè, Cézanne, che dipinge il Mont Saint-Victoire per 10 anni di fila, ha fatto, cioè, non lo so, Cézanne e Morandi, adesso, diciamo, cazzo. Sembra che io parlo male, però è così, ma l'Italia ha questo immaginario nazionale, insomma, tutti, d'altra parte il fascismo si è poi basato su questo, cioè si è basato sulle rivendicazioni delle grandi glorie del passato, l'impero romano, queste pizze qua, e insomma poi dopo, se voi guardate il materiale umano che avrebbe dovuto, diciamo, realizzare questa rinascita, no? tutti i signori con un abite abbastanza strizzati nelle loro divisine di orbaci, tutti a fare i salutini, e c'è gente oggi che dice che questo è un pezzo importante dell'Italia, Dio buono. Poi insomma, che fatti loro, ognuno è libero di pensarla come gli pare. Insomma, torniamo a noi, genealogia e archeologia. Studiare il passato è importante perché se lo studiamo dal punto di vista, diciamo, evolutivo, insomma, ecco, su questo siamo, dobbiamo essere un po' tutti darwiniani, cioè Darwin è quello che ci ha consentito di capire che c'è un passato, certo, nella come dire, biologia è Darwin che ha introdotto la storia, diciamo la storia in senso moderno, che ci ha raccontato che anche la storia, diciamo che anche il mondo della vita ha una storia che quindi che si evolve, che quindi non è che le specie sono state create immutabili da qualcheduno o anche da nessuno 14, quanto cazzo è, milioni di anni fa, insomma. Ma va bene. Allora, quindi, genealogia e archeologia, se avete capito, perché siccome lui dice archeologia non potevo leggervi. Allora, tale indagine archeologica, dice Foucault, ha indicato 2 grandi discontinuità nell'episteme della cultura occidentale. Quella che inaugura l'età classica, verso la metà del XVII secolo. Vedete che sembra uno storico, eh? In realtà questa non è storia, è filosofia. Allora, verso la metà del XVII secolo, all'incirca 1650, quella è la prima svolta, secondo Foucault, questa è quella che lui chiama l'età classica per lui non è l'età classica del passato, ma è la prima fase della modernità, diciamo quella che va dalla metà del XVII all'incirca a quasi tutto il XVIII secolo, e quella che agli inizi del XIX segna l'inizio della nostra modernità, e poi XIX secolo. Se vi viene mai vi viene mai voglia di leggere questo libro, Le parole cose, Foucault insiste in continuazione in questo libro sullo scarto che c'è tra l'età classica e quella che lui chiama l'età moderna, propriamente detta. In realtà, se voi, una volta che avete chiuso il libro e ci ripensate un attimo, come è successo a me che l'ho riletto dopo 20 anni, 30 anni, mi sono accorto che non ho capito un cazzo 20 anni fa quando l'ho letto la prima volta, quindi... scoprite che c'è meno discontinuità di quella che lui dice nel libro, insomma, no, non che lui non fosse consapevole, è che giustamente per spiegare la genealogia lui doveva giustamente insistere sulla discontinuità. In realtà però c'è una certa continuità. Questo è un problema di metodo più, diciamo, generale, che lui dice molto bene in un pezzo qua delle prime pagine delle parole e le cose. La continuità e la discontinuità non sono due paradigmi opposti. È impossibile capire la nascita di un episteme se non alternando in continuazione continuità e discontinuità. È ovvio che ogni volta che nasce qualcosa di nuovo c'è una discontinuità, perché sennò noi non saremmo in grado di cogliere, diciamo, cazzo, è successo qualcosa. Le avanguardie storiche dal 1895 al 1925 sono chiaramente una discontinuità nel mondo dell'arte e della cultura dell'Occidente. Ma se poi andate a vedere quali sono state le cose che hanno preparato, vedete che è impossibile capire il cubismo se non si capisce il fauvismo, è impossibile capire Picasso e Braque se non si guarda Cézanne, è impossibile capire Cézanne se non si capisce Pissarro, è impossibile capire Pissarro se non si conoscono gli altri impressionisti. Quindi c'è una catena, c'è una continuità sotterranea che ogni tanto emerge. La discontinuità non è altro che, e spesso è difficile capire la discontinuità nel momento in cui diciamo ci siamo dentro. Farò una breve digressione autobiografica dal punto di vista delle cose. Quando io mi sono messo a studiare 30 anni fa, 40 anni fa, le cose che vi dirò nella seconda parte del corso, il problema dei corpi artificiali, dell'immaginario e della pratica dei corpi artificiali. E quando poi dopo 15 anni circa che studiavo questa cosa, diciamo, è emerso prima il fenomeno del cyberpunk a metà degli anni 80, fine anni 80, e poi nei primi anni 90 quella che si è chiamata la tematica del postumano, in tutte le cose che ho scritto fino a un certo periodo, io ho sempre sottolineato la discontinuità. Dicevo, ragazzi, sta facendo qualcosa di nuovo. Non ho mai usato, diciamo, questo termine, ma si potrebbero leggere le cose che ho scritto io, ma anche tanta altra gente, in termini, come dire, foucaultiani. Abbiamo raccontato, stavamo cercando di raccontare la fine di una episteme e l'inizio di un'altra. Le cose che ha scritto Bifo, che ha scritto Berardi, molto meglio delle mie, insomma, sono chiare da questo punto di vista, insomma. Io, lui e varie altre gente stavamo nel mezzo, siamo ancora probabilmente, diciamo, nel mezzo di un processo cominciato all'incirca 20 anni fa, e diciamo, cazzo, c'è qualcosa che sta cambiando. Siccome la maggior parte o una gran parte del mondo culturale italiano ed europeo giocava al gioco del tiro al bersaglio, non contro di noi che siamo poveretti, nessuno ci caga, giustamente, ma insomma contro i fenomeni che noi stavamo commentando, che cazzata, queste robe qui sono robe di moda, eccetera, no, tutte le cose tipo cyberpunk, eccetera, moda, e allora noi abbiamo dovuto, almeno io parlo per me, no? Per gli altri non lo so, ma io insomma mi sono sentito di dovere accentuare la questione della discontinuità, perché c'era da fare una battaglia contro una massa di coglioni che non capivano che cosa stava succedendo di nuovo e non lo facevano per una serie di motivi. Dico un nome tra tutti, Umberto Eco, che è una delle figure bravissime, uno dei più bravi, però è uno che ha sempre ma non è nulla di così nuovo, ma lo sappiamo già, cioè, cazzo, allora dice, scusa, guarda che, cioè, per esempio lui, che è uno purtroppo che conta moltissimo in Italia, perché molta gente lo legge, non tanto i suoi libri quanto le sue bustine di Minerva sull'Espresso, non so se le faccio ancora, ma insomma, le robe che scrive le poche volte che va in TV. tutta l'azione di Umberto Eco è sempre stata, per esempio sul tema delle nuove tecnologie, rassicurare la gente. No, ma non è così grande, non è così nuovo come pensate. Col computer si fanno benissimo le cose che sappiamo già fare. Col computer si scrive, certo, scriviamo, ma si scrive molto meglio col computer che non con la penna stilografica. E quindi faceva l'impressione di essere uno molto progressista, molto, perché diceva, cazzo, si può disegnare col computer molto meglio, è più facile, più... e non diceva mai mezza delle cose nuove, che si possono fare nuove, non quelle vecchie, ci sono delle cose che si possono fare con il computer che prima non si potevano fare. E allora l'idea di continuare a sottolineare la continuità, dice, ma in fondo l'uomo è sempre uguale, è sempre quello, ha dei nuovi strumenti, certo che sono tutti strumenti nuovi, grazie al cazzo, lo so anch'io, però, come dire, nelle cose che, come diceva Eco, il computer era poco più che una penna stilografica. La penna stilografica è stata una grande invenzione, non c'è dubbio, e la penna biro poi non ne parliamo, ma erano quelle, come dire, queste sì sono veramente invenzioni tecniche che hanno migliorato una cosa che c'era già prima, la pratica della scrittura. È ovvio che è molto più comodo scrivere con una penna biro e con una penna d'oca intinta in un calamaio di inchiostro di origine, diciamo, minerale o vegetale. E voi siete, pensate, c'erano gli studenti di alcune generazioni prima di voi, diciamo dal XII al XIV secolo, prima dell'invenzione della stampa, prima dell'invenzione, i quali scrivono con la penna d'oca, probabilmente piavano appunti come fate voi, era molto più complicato, è ovvio che, cioè, però né la penna stilografica né la penna biro hanno alterato l'episteme della scrittura, cazzo. L'episteme è rimasto uguale, semplicemente è stato gestito un po' meglio. Probabilmente sta cazzo di roba non ha conservato l'episteme della scrittura. Questa roba qua è il sintomo, non dico la causa, ma il sintomo, una con causa forse sì, è insieme una causa, un sintomo, un effetto di una episteme nuova che sta venendo fuori. Quindi ecco perché 10 anni fa io insistevo moltissimo, anche in maniera, sicuramente faccio ammenda, a volte un po' sensazionalistica e superficiale, sulla novità delle cose. Ragazzi, guardate che c'è qualcosa di nuovo, sta cambiando, c'è qualcosa si rovescia. Se leggete le cose che ho scritto negli ultimi 10 anni, dici, ma cazzo, ti sei rammollito il cervello, sei sempre lì che dici, cioè, ma però questo si riaggancia, sì, ecco, questo perché non credo che questa battaglia, diciamo, l'abbiamo vinta. Come sapete tutti, la mamma dei coglioni è sempre incinta, per cui, no, senza colpa dico per la mamma, insomma, cioè, povera, le mamme non hanno colpa in genere, ma manco i padri, insomma, di quello che fanno i figli, insomma, né i figli quello che fanno i padri, questo è ovvio. Però, diciamo, non che la battaglia si sia vinta, però negli ultimi 10 anni mi è, come dire, venuto un po' il dubbio che, insistendo troppo su questa questione della discontinuità, si corresse il rischio di non far capire che il processo che la ipermodernità, la tarda modernità, il postfordismo, il capitalismo cognitivo, la globalizzazione, chiamatela come cazzo volete, tutto questo insieme di fenomeni, avevano una causa e erano stati preparati prima. Il capitalismo cognitivo, il postfordismo, non ci sarebbe stato se per 20 anni le masse proletarie del mondo non avessero messo in crisi il sistema fordista che c'era. Qualcosa sarebbe successo, ma i capitalisti a metà degli anni, come dire, 70, erano realmente disperati, non sapevano come fare per portare a casa i quattrini, i loro quattrini, cioè il plus valore, non i quattrini normali, quelli che potevano portare a casa, ma il plus valore, cioè quello su cui loro vivono, cazzo, il frutto dello sfruttamento del lavoro vivo, insomma. Non erano più capaci di costruire il lavoro morto, le condizioni dell'accumulazione erano bloccate. Gli operai, i lavoratori e gli studenti e le, le masse, quelle che allora erano le masse, quello che oggi chiamiamo moltitudini, dentro le fabbriche e fuori dalle fabbriche avevano, rischiavano giornalmente di provocare il blocco del sistema. In Italia le fabbriche sono state per quasi 10 anni fuori dal controllo dei loro padroni, fuori dal controllo. I proprietari delle fabbriche, i manager, non le controllavano più. Gli operai facevano più o meno, non proprio, però facevano realmente quello che volevano. Cioè, era dal punto di vista, era una bellissima situazione per me, dico, per chi pensa che gli esseri umani vengano prima di tutto il resto e quindi prima del capitale. Era una bella condizione, perché era una condizione in cui masse enormi di persone non blateravano della loro liberazione, ma si liberavano da sole, costantemente, giorno dopo giorno, settimana più, settimana meno, c'era la settimana che dovevi lavorare, certo, capita a tutti. Però, diciamo, stavi meno peggio di prima, avevi cominciato a prendere un controllo sulla tua vita, a fare in modo che ciò che tu dicevi e fra ciò che dicevi e ciò che facevi non c'era più uno iato così grosso. Tutto questo per il capitalista è intollerabile, perché il capitalista, no, non perché sia particolarmente estremo, i capitalisti sono probabilmente singolarmente anche bravissime persone, però gestiscono un sistema che si basa su questo meccanismo. La vita delle persone, la vita di alcune persone, di quelli che lavorano per te, deve avere una parte, un pezzo, una quota, una percentuale abbastanza ampia del tempo della vita di queste persone deve essere loro sottratto, perché non possono gestirlo loro, perché deve servire al fatto che loro facciano quei gesti, quelle azioni organizzate, eccetera, in modo che il loro lavoro vivo si trasferisca, diventi morto, venga ucciso, venga incorporato in un meccanismo oggettivo chiamato capitale, chiamato macchine, chiamato organizzazione del lavoro, eccetera, e su questa base il capitalista costruisce il proprio guadagno, che si chiama profitto. Tutto lì. È molto semplice. Fino a che le robe vanno bene, fino a che c'è qualche cosa da distribuire, le cose, come dire, quando comincia a non esserci più niente o quello che c'è da distribuire diminuisce, vi dice niente questa cosa, eh? Oggi sta succedendo questo, grosso modo. Per una serie di motivi il meccanismo si è inceppato, non c'è più niente o quasi niente da, diciamo, distribuire. Però oggi, a differenza che 30 anni fa o 40 anni fa, il capitalismo è stato in grado di costruire una serie di meccanismi che io spero che salteranno e che hanno tutte le possibilità di saltare, ma che per il momento ancora tengono, per il momento ancora non si è visto il fatto che la gente non ne possa davvero più e quindi dice ma andate tutti a fanculo, ma sapete che volete? Andate a fanculo, fatevele voi le cose, che cazzo volete da me? Ancora questo non è successo. C'è la possibilità che succeda, credo che si debba lavorare perché succeda, ma questo è quello che sta succedendo adesso. Era quello, negli anni 60 successe, come dire, l'opposto. Negli anni 60 appena mollarono un poco le cose ed ebbero qualcosina di più da distribuire, qualche briciolina in più da, come dire, distribuire, una nuova generazione di persone, non i vecchi operai, cioè non quelli della generazione dei miei genitori, dei vostri nonni o bisnonni, ma quelli della mia generazione, quelli che avevano 20 anni, 20, 21, 22, 18, 25 nel 68, 63, 64, 68, insomma in quegli anni lì, mi dicono, cazzo però, uè, ma guarda un po', qua ci sono delle briciole, ma perché a me mi arrivano solo le briciole? Però vuol dire che qualcosa c'è, cioè, scusa, vorrei un po' di più, ti spiace? Da prima con buone, come dire, maniere, poi certo se vedi che ti fanno incazzare perché non ti danno niente, qualche sasso lo tiri, cioè non è che si muore, insomma, cioè, la prima volta successe nel 1962, nel luglio 60 a Genova, che si va a dover tenere un congresso fascista e i giovani di Genova dissero no. due anni dopo, quando la CISL e la Wilto, guarda caso, anche oggi succede così, la CISL e la Wilto firmarono un contratto separato con la Fiat, a cui la CGIL di allora non aderì, contro il parere della CGIL, un certo numero di operai della Fiat andarono in questa piazza, che si chiama Piazza Statuto a Torino, dove c'era la sede della UIL, e c'erano un po' di sassi per terra, e spaccarono le finestre del sindacato della UIL, perché erano stronzi, secondo loro, io non voglio dire, figuriamoci, perché hanno firmato questa cosa, non andava bene. Quindi la gente ha cominciato, perché? Perché si era capito che c'era spazio, che il sistema era in espansione, si stava allargando, c'era la possibilità di avere qualche cosa di più, ci davano solo le briciole, abbiamo detto scusate, vorremmo qualcosa di più, e ci siamo presi qualcosa di più, se non con i contratti, nella pratica delle cose, senza andare più a lavorare, senza, io all'epoca facevo un insegnante, mi rendo conto che questa mia, come dire, pratica di riprendermi il tempo avrà anche danneggiato marginalmente alcuni dei miei allievi, diciamo, dell'epoca. Però insomma, diciamo, nel bilancio complessivo dei costi e dei, diciamo, ricavi, penso che abbiamo fatto più bene che male noi che, come dire, io mi considero un pezzo di quelli che all'epoca era più, diciamo, radicale degli altri nella sua pratica di riappropriazione del proprio tempo e della propria vita. Anche se congiunturalmente questo poteva urtare anche gli interessi di gente come me, cioè come quando oggi si dice, cazzo, gli scioperi dei trasporti non devono scioperare, perché... E ho capito, certo, anche a me mi scotta quando c'è proprio dei trasporti, non posso prendere pullman, è ovvio, però voglio dire, non può essere l'unico parametro, cazzo, il primo parametro per chi lavora è la sua condizione, per chiunque di noi è la propria condizione, che cosa mi succede a me se non mi dai un contratto, mi fai fare un lavoro di merda, mi fai fare dei tunnel, eccetera, oh, andate a fanculo, cioè, capisco, ci rimetteranno gli utenti per un giorno, ma insomma, diavolo, non è che mi pagate per fare la vestale e diciamo, io devo stare buono, devo fare sempre quello che dice il pubblico, è andata a cagare, cioè, insomma, non posso avere, è una roba. Torniamo, allora, continuità e diciamo, discontinuità, capite, è difficile tracciare una linea, allora ogni discontinuità è sempre preparata da qualcosa che veniva prima, e quindi dietro a ogni discontinuità, dietro a ogni salto, c'è la linea. Io posso ricostruirla, perlomeno a posteriori. Che cosa è successo? Succede quello perché c'è stato un fenomeno discontinuo, c'è stato un momento di scoppio di qualche cosa, ma le condizioni si erano preparate da prima, quindi da un certo punto di vista la discontinuità non esclude la continuità. E questo Foucault l'aveva capito bene. Eccolo qua. Per quanto si possa avere l'impressione di un movimento quasi ininterrotto della ragione europea dal Rinascimento ai nostri giorni, anni 60, lui scrive negli anni 60, insomma, tutta questa quasi continuità a livello delle idee e dei temi non è probabilmente che un effetto percepibile alla superficie. A livello archeologico, a quello delle condizioni, della storia, del cambiamento, a livello archeologico, vediamo che il sistema delle positività è cambiato radicalmente alla svolta dal XVIII al XIX secolo. Nella pagina dopo scrive Foucault: l'analisi ha potuto mostrare la coerenza che è esistita lungo l'intero arco dell'età classica fra la teoria della rappresentazione e quelle del linguaggio, degli ordini naturali, della ricchezza e del valore. Il libro è tutto costruito sull'esame di questi tre campi. Il linguaggio, quindi come era percepito il linguaggio all'inizio dell'età classica, nell'età classica e nell'età moderna. Gli ordini, quelli che lui chiama gli ordini naturali, cioè quelli che oggi chiamiamo le scienze della vita, i fenomeni che vanno sotto il nome di biologia, quelli che noi chiamiamo biologia, diciamo lo studio dei fenomeni naturali, vitali o non vitali. E terzo campo, l'analisi della ricchezza e del valore, quella che oggi chiamiamo economia, la nascita dell'economia politica. Questi sono i tre campi nei quali Foucault analizza la nascita dell'episteme, da prima classica e successivamente moderna. L'analisi ha potuto mostrare la coerenza che è esistita lungo tutto l'arco dell'età classica fra la teoria della rappresentazione, poi parleremo di questo perché il fulcro per Foucault dell'età classica è la rappresentazione, e quelle del linguaggio, degli ordini naturali, della ricchezza e del valore. È questa la configurazione che cambia completamente a partire dal XIX secolo. La teoria della rappresentazione scompare in quanto fondamento generale di tutti gli ordini possibili. Il linguaggio come quadro spontaneo e quadrettatura iniziale delle cose e come tappa indispensabile fra la rappresentazione e gli esseri svanisce a sua volta. Una storicità profonda penetra il cuore delle cose, le isola e le definisce nella loro coerenza, imprimendo ad esse, alle cose, ordini formali implicati dalla continuità del tempo. Questa è una descrizione sintetica di quella che per Foucault è l'episteme della modernità in contrapposizione a quella classica. Su tutti questi temi ci tornerò, perché vi spiegherò meglio che cosa intendo. Adesso però voglio leggervi la... Ma via via che le cose si avvolgono su se stesse, non richiedendo che al loro divenire il principio dell'intelligibilità e abbandonando lo spazio della rappresentazione, l'uomo da parte sua per la prima volta entra nel campo del sapere occidentale. L'uomo da parte sua per la prima volta entra nel campo del sapere occidentale. Stranamente, l'uomo, la conoscenza del quale passa per occhi ingenui come la più antica indagine da Socrate in poi, l'uomo, stranamente, non è probabilmente altro che una certa configurazione comunque tracciata dalla disposizione nuova che egli ha recentemente assunto nel sapere. L'uomo nasce perché nasce un sapere dell'uomo, ecco, l'oggetto di un'indagine nasce insieme con quell'indagine, non c'è prima. Prima c'è un'altra cosa. Se il sapere nel 600, detta brutalmente, secondo Foucault l'uomo non c'è come noi l'abbiamo, pensiamo noi. Conforta tuttavia e tranquillizza profondamente, è molto ironico, pensare che l'uomo non è che un'invenzione recente, una figura che non ha nemmeno due secoli, una semplice piega nel nostro sapere e che sparirà non appena questo avrà trovato una nuova forma. La mia idea è che l'uomo sta già sparendo e infatti noi per questo oggi parliamo di postumano, perché sta cambiando nuovamente l'episteme dopo circa un secolo e mezzo da quando si è inaugurata l'episteme della, come dire, modernità. Poi possiamo chiamare modernità tutto l'arco, possiamo chiamare modernità anche quella che poi Foucault chiama l'età classica, insomma. Ma... devo spiegare un po' che cosa intende Foucault per quando dice che tutto il sapere, tutta l'episteme dell'età classica è fondata sulla rappresentazione e in modo particolare il linguaggio. Ora qui le cose sono abbastanza complicate, perché? Perché in realtà lo sviluppo degli studi sul linguaggio, cioè della linguistica nel Novecento, ha paradossalmente o stranamente recuperato alcune delle idee espresse nella linguistica del Seicento. L'esempio più eclatante è Noam Chomsky, che è probabilmente il più grande linguista del Novecento, e che quindi, cioè, insomma, dovrebbe stare dentro a quella episteme che dice Foucault. E Noam Chomsky, quando scrive, vediamo se trovo l'anno perché non me lo ricordo, Chomsky è un personaggio a cui io sono molto legato perché ho fatto la tesi su di lui, quindi, e sono stato chomskiano per un sacco di anni, poi mi sono accorto che non era giusto. Allora, questo è un saggio scritto nel 1965, quindi un bel po' di tempo fa. Questo saggio si chiama Linguistica cartesiana, un capitolo di storia del pensiero razionalistico. Questi sono gli scritti, diciamo, più teorico-filosofici di Chomsky, cioè di filosofia del linguaggio, perché dobbiamo fare questi che sono tecnici, sono molto più lingue. Questo è un linguista. Chomsky si rifà esplicitamente a Cartesio e al modello di razionalismo di Cartesio e alle grandi opere di linguistica e di logica del XVII secolo, che sono la Grammaire e la Logique della scuola di Port-Royal. Parliamo dei gesuiti. Nel XVII secolo in Francia i gesuiti avevano questa scuola di Port-Royal e in cui scrissero due grandi libri, sono libri, diciamo, di testo, opere che uscirono anonime, in realtà poi, diciamo, l'autore più importante, insomma, quello, il linguista più importante era Arnaud, però questi libri non sono firmati da Arnaud. Cancelliamo anche l'altra parte. Circa alla metà, non mi ricordo più l'anno, o prima o poco dopo, escono una grammatica e una logica, che sono note come la Grammaire e la Logique di Port-Royal, che Foucault analizza distesamente nei capitoli centrali di Le parole e le cose. Allora, noi abbiamo probabilmente il più importante linguista del Novecento, che a metà del Novecento scrive un saggio rivendicando una sua continuità, che in realtà è una rottura per lui con la linguistica contemporanea, con gli studi del linguaggio di tre secoli prima, cioè quindi quelli che Foucault chiama dell'età classica. Questa è una cosa che dovremmo spiegarci, perché allora non si capisce bene come, questo ve lo segnalo solo come, diciamo, problema. Allora, vi leggo un altro pezzo per capire che cosa intende. Allora, vediamo di capire come si configura il linguaggio, cioè, e quindi che cosa c'entra questa idea della rappresentazione nell'analisi foucaultiana. Vi leggo l'inizio del capitolo quarto, che è intitolato Parlare, di Le parole e le cose. L'esistenza del linguaggio nell'età classica è a un tempo sovrana e discreta. Sovrana dal momento che le parole hanno ricevuto il compito e il potere di rappresentare il pensiero. Ma rappresentare non significa in questo caso tradurre, dare una versione visibile, fabbricare un duplicato materiale, che possa su un versante esterno del corpo riprodurre il pensiero nella sua esattezza. Rappresentare va inteso in senso stretto. Il linguaggio rappresenta il pensiero come il pensiero rappresenta se stesso. Il linguaggio rappresenta il pensiero come il pensiero rappresenta se stesso. Prima arrivo in fondo, poi dopo commento, perché non esiste, al fine di costituire il linguaggio o di animarlo dall'interno, un atto essenziale e primitivo di significazione, ma soltanto al centro della rappresentazione quel potere che essa detiene di rappresentare se stessa, cioè di analizzarsi giustapponendosi parte accanto a parte sotto lo sguardo della riflessione e di delegare se stessa in un sostituto che la prolunghi. Nell'età classica nulla è dato che non sia dato alla rappresentazione, ma appunto per questo nessun segno scaturisce, nessuna parola è enunciata, nessun termine e nessuna proporzione mira a un qualche contenuto se non in virtù del gioco di una rappresentazione che si discosta da se stessa, si sdoppia e si riflette in un'altra rappresentazione che le è equivalente. Le rappresentazioni non mettono radici in un mondo da cui prenderebbero il loro senso. Si aprono da sé su uno spazio che è loro proprio e la cui nervatura interna dà luogo al senso. E il linguaggio si situa proprio nello scarto che la rappresentazione stabilisce nei riguardi di se stessa. Allora, che cosa, purtroppo mi sa che devo un po' degradarlo, insomma, Foucault, però per adesso vi dico come l'ho capito io, perché poi non è detto che sia il modo giusto. La cosa che spiega Foucault in questo passaggio, e poi lo ripete anche dal punto di vista, questo è sul linguaggio, cosa analoga poi dirà sulle scienze naturali, sull'economia, sulle analisi della, diciamo, ricchezza. In qualche maniera, dal pensiero classico, dal pensiero classico dell'antichità, scusate, il termine classico lui lo riferisce, dal pensiero dell'antichità al pensiero medievale, sino al pensiero rinascimentale, cioè sino al XVI secolo, sino a tutto il Cinquecento, ci spiega Foucault, il primo capitolo è dedicato a quello, è invalsa. Focalizziamoci sul, diciamo, linguaggio. È rimasto, per quanto riguarda il linguaggio, è invalsa una presupposizione di realismo. Certo che c'è una funzione della rappresentazione anche in questi modi precedenti di intendere il linguaggio, anche secondo gli antichi, anche secondo gli stoici, anche secondo Aristotele, anche secondo San Tommaso e anche secondo Giordano Bruno il linguaggio rappresenta. Ma come rappresenta? Il linguaggio è una specie di calco della realtà. C'è una sorta di necessità nel linguaggio. E come si spiega l'antico, il medievale, il rinascimentale, che le lingue sono tutte diverse tra loro e che quindi non sembra che ci sia una corrispondenza necessaria tra gli oggetti e i suoni, perché in coreano tavolo lo dico in un modo, in inglese dico table, in tedesco dico tisch, in italiano dico tavolo. L'uomo dell'antichità, del Medioevo e del Rinascimento dice sì, ma queste lingue non sono altro che la differenziazione storica, degradata magari, di un antico linguaggio unico. E questo pure la Bibbia lo dice, cazzo. Prima di Babele gli uomini parlavano un linguaggio unico e si capivano tutti tra loro. e questo parlare un linguaggio unico dà agli uomini quella forza interiore e quel potere per cui essi pensano orgogliosamente di fare come Capaneo, la hybris, avrebbero detto i greci, e quindi di costruire la blasfema torre di Babele che doveva arrivare sino al cielo e sfidare la potenza dell'onnipotente, ma l'onnipotente si chiama così mica per caso, e quindi zacchete, zutta, arriva il fulmine, la torre di Babele crolla, tipo terremoto dell'Abruzzo, fa un po' di morti, ma all'epoca non c'era la protezione civile, e quindi, e soprattutto quelli che si svegliano dopo le mattonate in testa, si scopre che parlano lingue diverse. In qualche maniera, quello che il 600 inaugura è un pensiero che si libera della presupposizione di una corrispondenza necessaria e quasi fisica tra le parole e le cose. Dal 600 in poi il legame tra le parole e le cose diventa un legame arbitrario. Non c'è più nessuna ragione perché la parola pensare si dica pensare in italiano, penser in francese, think in inglese, denken in tedesco, e basta perché non ne so più di lingue, quindi è inutile che faccio il furbo. Non c'è più questo presupposto, non c'è più neanche l'idea. Rileggiamo la frase che dice Foucault. E il linguaggio si situa proprio nello scarto che la rappresentazione stabilisce nei riguardi di se stessa. La rappresentazione diventa, nel pensiero classico e poi però anche in quello moderno, da questo punto di vista non cambia, cambieranno altre cose, ma questo possiamo darlo per assodato, che è il nostro modo di pensare grosso modo anche oggi. La rappresentazione non è nient'altro che una capacità della nostra mente di riflettere se stessa. È questo il modo con il quale il pensiero del 600 si libera dal presupposto ingombrante e difficile di un legame oggettivo tra le parole e le cose, di un legame dato al di fuori di noi. No, il legame tra le parole e le cose lo istituiamo noi. Perché? Perché la nostra mente è capace, cioè insomma, qual è la rappresentazione originaria? Non è un rispecchiamento del mondo, prendere il mondo, mettere davanti uno specchio e dire ah ecco, nello specchio c'ho le parole e fuori c'ho le cose. No, la rappresentazione diventa per il pensiero del 600 innanzitutto un movimento interno della mente. Quindi la prima rappresentazione è la ragione di se stessa, è paradossale, perché è questo chiudersi della mente, questa capacità che la mente scopre in se stessa di autorappresentarsi, di essere in grado di parlare di se stessa, che fonda quello che poi Saussure chiamerà l'arbitrarietà del segno, cioè il fatto che non c'è nessuna ragione oggettiva perché le cose si chiamino come si chiamano. Attenzione, arbitrarietà del segno paradossalmente è implicata già dalle prime righe del Genesi, quando Yahweh dice ad Adamo ecco gli animali, dagli, ecco gli animali, i pesci, le piante, dagli un nome, non gli dice dagli un nome che gli sia consono, dagli il nome che si meritano, dagli che paradossalmente la Bibbia, cioè il pensiero ebraico, è più relativista di quello che Papa Ratzinger oggi vorrebbe imporci. Non gli dice Jehovah ad Adamo dai un nome alle cose secondo questi criteri, non gli dice tieni conto di una supposta corrispondenza, no, gli dice fai il cazzo che ti pare, chiamali come cazzo ti pare a te, inventati i nomi che vuoi, non c'è scritto così, ma è implicito, perché non c'è nessuna. È ovvio che tutto il pensiero che viene dopo, in tutto il pensiero dell'antichità, Aristotele non la conosceva la Bibbia, e Platone neanche, perché erano un popolo di disperati che vagolavano per ex pastori che avevano imparato da pochissimo l'agricoltura, attaccabrighe come pochi, come oggi peraltro, però geniali da un sacco di punti di vista, non c'è dubbio, però un po' attaccabrighe sì, insomma. Non è antico, come dire, semitismo, a prendere atto di com'è la loro storia, la loro cultura, insomma. Quindi, nel pensiero dell'antichità non c'è questa idea dell'arbitrarietà del segno. Il segno è qualche cosa che rappresenta perché ha delle motivazioni intrinseche, interne, di legame col mondo presupposto. C'è prima il legame, diciamo, col mondo. E c'è a livello dei contenuti, non a livello della facoltà, della potenzialità. C'è dire in qualche maniera direttamente a livello dei contenuti. Il pensiero del 600 si sgancia di qui. La rappresentazione diventa centrale nel pensiero che Foucault chiama classico. Devo solo vedere l'ora. Diventa centrale nel pensiero che Foucault chiama classico perché è una autorappresentazione, perché è innanzitutto una capacità, è la prima volta che. Ed ecco, guardate, questa è l'altra, quando nasce l'uomo, quando nasce l'oggetto uomo, non nasce nel 600, ci vorrà ancora due secoli, ma nasce in parte sulla base di questo presupposto. Un oggetto del sapere uomo può nascere solo quando ci si rende conto che il quadro complessivo in cui si situano le conoscenze umane eccede, è eccedente, è più grosso, esubera, è più ampio di ogni sistema di conoscenze specifico. Quando, insomma, ci si rende conto più o meno del concetto di potenza. Potenza non come potere, la potenza è l'opposto del potere. Il potere è una potenza ossificata, il potere serve per dominare qualcun altro. La potenza è la potenzialità, è la possibilità, è quella che Spinoza chiamava Dio, Deus sive natura, Dio o la natura. È l'insieme delle possibilità dell'uomo e del mondo. L'uomo è un pezzo del mondo, riflette in qualche maniera la potenza del mondo, è portatore di una potenza sua particolare che poi si scoprirà è la potenza del linguaggio, è la facoltà è quella che oggi si chiama la facoltà di parola. L'uomo come oggetto di sapere, e quindi l'uomo come essere, l'uomo come sapere nasce solo nel momento in cui ci si rende conto che dietro a tutto questo c'è una potenza. Ovviamente il pensiero del 600 oggettiva un po' questa cosa, non lo dice in modo chiaro, Spinoza già lo dice certamente e vive nel 600, ma Foucault non si occupa dei grandi filosofi, giustamente si occupa di quelli che noi diremmo piccoli filosofi, cioè, che però è il pensiero, è il tessuto connettivo di una cultura, se non ci fossero i piccoli filosofi, i piccoli scrittori, i piccoli pensatori, insomma, se non ci fossero i Caronia non ci sarebbero neanche gli Umberto Eco, insomma. Detto questo, sempre così almeno abbiamo pareggiato i conti con il grande semiologo. Non ho parlato solo male di lui. Quindi è il tessuto connettivo delle idee e delle pratiche, evidentemente, che costruiscono il quadro, quella che Foucault chiama l'episteme. Quindi l'episteme classica è un'episteme che si fonda sulla rappresentazione e sulla potenza. L'altra frase che mi pare importante nel cosa che vi ho letto di Foucault: non esiste un atto essenziale e primitivo di significazione, ma soltanto quel potere al centro della rappresentazione di rappresentare se stessa. Su questa cosa voglio espandere questo concetto di Foucault parlandovi di un concetto analogo di Lévi-Strauss, che Lévi-Strauss aveva enunciato circa 14 anni prima di quello che degli anni in cui Foucault scrive queste righe, ma questo ve lo dirò dopo la pausa, perché qua se no morite voi e muoio io. Facciamo che riprendo alle 5 e 5 precise, ora sono le 5 meno 5, scusate, alle 4 e 5, scusate, alle 6, per andare avanti alle 5, no, stavo pensando di andare. Allora, cioè esattamente 10 minuti, perché sennò io ricomincio a quell'ora lì. Ci organizziamo per questo. Ma questo è il tuo quaderno di appunti. Uno dei miei quaderni. Parlavo poi di cazzo. Perché quando devo preparare le lezioni, come queste sono lezioni nuove, che non ho mai fatto. Perché la mia. Sì. Vabbè, non avevo capito perché mi ha chiesto posso riguardare la penna, non mi ricordo. Sì. Ci mancherebbe che non toccassi. Ce l'ho già. Ecco, bravo, allora così me la rendi e me la porto via. Quel libro non ci sei? No. Chiaro, chiaro, no. Ma bella che non c'eri neanche le altre volte allora, Cioè, non ci sei mai stato nell'evento? No, sì, ci sono stato. E allora perché sei scomparso? No, non ci sono mai stato nella scritta. Quello è. Vabbè, però risolvitela, perché sennò. Allora, ma di voi chi viene giù? Allora, io, Rossella, Fabio, Luca, Teiro. Allora, i lettori li avete? Sì. Tutti e quattro? Perché, no, non viene fra, però lo stessi dice, o abbiamo tre possibilità diverse, un poeta molto molto bravo di Roma, che è Pigliate uno giù allora. Esatto, se no una amica di Loretta, se no una ragazza del forte. Amica di Loretta è Marta. Sì. Sì. Ok, allora, allora quella è roba, sono cioè tre di Milano, uno di Roma, Fabio fa la regia. Quindi rifacciamo la roba di Milano. Sì, in più vediamo un attimo se magari integriamo un pezzettino dello studente medio prima di Italia. Vediamo un attimo se ne sono. No, scusa, tranne ci manca Roberta. Quindi facciamo quello senza Roberta, quindi se abbiamo un pezzo in più è meglio, esatto. Sì, perché così almeno o se abbiamo un finale diverso da quello che abbiamo fatto prima, non lo so. Okay. Però potremmo fare il finale. Il finale diverso potrebbe essere che questo poeta qua che. Sì. Vorrei che ci aiutasse, è uno che, vabbè, lui esce dall'esperienza del rap, sì. E vabbè, è anche poeta, un linguaggio molto, molto veloce, ritmato. E lui che avrebbe una... Ma che c'è poesia, precari, e quindi magari si può attaccare, c'è un testo dopo, no? Invece di... Ma c'ha delle basi su cui fare la cosa, per dire, preregistrate, oppure da un gruppo. Ma lui adesso in effetti fa poesia elettronica, quindi magari una prova sua, quindi, io oggi lo sento, adesso me lo faccio. Allora sarebbe, benissimo. Se lui è libero, facciamo che. Se fate fare il pezzo di chi è che manca, il pezzo di Franco a Marta, che è brava secondo me, sì. Il produttore però è brava, non mi pare piacere che fosse lei, perché cioè, è stata la mia allieva di vari anni fa, ma... Comunque, se no anche no. E invece se questo qui facesse un bel invece finale fatto così, ci alza, nel senso che sì, si fa in crescendo. Possiamo spostare il pezzo di stacco, no? Che Roberto entrava dal pubblico alla fine. Ah, con lui magari. Lui potrebbe spostarsi prima, presente quando dice sta usare il pubblico, inventare. Esatto, c'è lui e tanta roba. Poeta, un po' di poesia. Però poi sarebbe anche un po' di finale. Sì, cioè adesso potrebbe fare sulle due. Esatto. Va bene, va bene. Sarebbe, mi sembra. Va bene, va bene. No, va bene, va bene, va bene. Ah, lui è molto simpatico, fa un romanaccio alla mano, si diverte tantissimo. Sì, io dunque, sai, io non mi ricordo. Allora, come facciamo per... tu parti in treno? Allora, io parto in treno e poi devo vedere... Scusa, tu rientri in un altro rimborso? Sì, entro nel rimborso di Oil. Okay. Però lo stronzo, perché hanno detto che non mi danno i 150 euro dell'Eurostar, mi danno i 100 euro del come si chiama? Dell'intercità. No, perché io comunque... Che hanno saltato la tappa Catania. Ah, non la tappa Catania? No, perché noi dovevamo andare, ma lui mi ha chiamato, mi ha detto che questi qua si chiama Centro Sociale Xperia. Praticamente loro tre giorni prima dell'evento gli hanno mandato un'email dicendo che innanzitutto avevano problemi con quello del cantiere. Noi non avevamo mai sentito parlare di questo centro sociale di Catania. Abbiamo detto che perché abbiamo avuto degli scatti col coordinamento palestinese, che è un'altra cosa con cui noi, cioè, non abbiamo capito tanto questa cosa. Gli ha detto abbiamo avuto dei problemi col cantiere, ci stanno sul cazzo in pratica, però fagli sapere che siccome noi siamo migliori li ospitiamo lo stesso e sono benvenuti lo stesso. In più l'altra parte di questa email era rispetto alle sostanze e dicevano: noi tra l'altro distribuiamo questo volantino perché siamo anti-proibizionisti, siamo totalmente contro a favore della proibizione di tutte le sostanze, dall'alcol alle sigarette a tutte le droghe. E loro comunque sono MDMA, cioè bene o male, sono stati sempre all'interno della rete antiproibizionista. Quindi già gli ha girato il cazzo per sta cosa del cantiere, infine gli ha girato il cazzo per la roba delle sostanze. Abbiamo fatto saltare la data. Ah, quindi Catania è quello? Quello che hanno saltato, cioè hanno speso i soldi perché avevano già fatto i biglietti a tutti. Questi erano già pagati. Certo, ma tutti questi qua, cazzo, vanno via culo. Benevento la parte del verde. Allora, quello dell'evento è stata la Catania. Secondo me no, poverino, ho capito, ho detto, vabbè, se uno non li ha, devo fare. Comunque io arrivo lì, partiamo penso di mattina presto, quindi arrivo. Ormai ci metto 3 ore per Roma, quindi non è che sia. Diciamo nel tuo pomeriggio sono già lì. E devo fare anche oggi, adesso io non so com'è. Non so se Oil viene prima di noi. Siamo alle 9:30. Noi siamo alle 9:30, dove cazzo è? No, questo è Oil. Hanno dato qualcuno di c'è tra l'altro in quel giro. Non c'è un Adamolo. No, non l'hanno segnato. Ah, non era scritta nel manifesto. Però credo sia in questa parte. In questa parte qua, in questa la siamo per forma. Adesso c'è una tassa. Però lei viene per certo fuori. C'è anche. Ieri, sono tutti quelli che se ne fanno bene, quelli che stanno a Milano, insomma. Ma metà sono del Dio nostro, quindi sicuro. E noi, la patrocinata. Qualcosa di tecnica c'è? Qui io la mando. Non mi ricordo. L'idea sta di tornare in mattina, cioè probabilmente fermarci a dormire a Wiki. Partire la mattina presto, andare a Senigallia e incontrare i ragazzi del centro sociale di Senigallia, perché loro ogni anno organizzano un campeggio estivo e noi volevamo proporgli di fare un campeggio nazionale dell'Onda a luglio, invece loro lo fanno durante Ferragosto dei centri sociali. Noi volevamo proporgli di fare una cosa studentesca che... cioè come anni fa i campeggi dei cicci, no? Cioè inviti gente a tenere crepe di approfondimento. sfondamento, sia teoriche ma anche pratiche, tipo un Giappone sulla comunicazione, cioè qualcosa che dia degli strumenti di muovere questo mondo. Comunque, se io sono lì il pomeriggio, il sabato, il pomeriggio, è il culo, okay. Allora, io vengo, io non mi ricordo più dove sta, cioè io sono stato una volta sola, non mi ricordo neanche che cosa. Ma il del forte è stato qua il cocco. Adesso lei giustamente deve organizzare la roba. La roba di Lorenzo. Dai, ci vediamo giù, ci siamo giù alla fine, che ci abbiamo fatto. Torno. L'unico problema è che non so se la mia amica Capozzo la darmi da dove. Vieni con noi a Wix. Tu hai già detto posso darmi? Mi devo portare il sacapelo? No, là c'è tutto. C'è tutto. Sì. Poi però voi se tornate lì, poi come faccio io per prendere il treno? E se poi voi andate a Senigallia? Beh, bisognerà che ora vuoi partire, se... Ma può fare partire sul viatto, non è un problema. Come vuoi tu, noi credo che avremo una macchina da 7 posti, adesso stiamo vedendo per l'auto, cosa abbiamo. No, vabbè, ci vediamo. Per prendere il treno ci diamo un passaggio alla stazione. Okay. Questo lo decidiamo domani, lo decidiamo sabato, ok, va bene. Domani, no? Io non lo so. Cos'era? Sub alle 6, poi. Sandro, sempre c'è scritto. No, non c'è per una musica. Ah, ok. Perché non è stata molto, poi non è stata molto. Ma come fai io? Perché ci farci le cose che non esistono? Stai sputando? E domani, sì. No, domani pomeriggio di sera. Io devo ricominciare, cazzo devo fare, ma tutto insieme deve succedere sempre. Domani sera una cabina insieme, però se prima di via, devo fare il sound check in concetto. Mi faccio conoscere anche i ragazzi della animazione. E sarà l'incontro della loro vita, ragazzi, loro volevano conoscere. Loro, ma sarà per i danesi, non che loro dovrebbero conoscere con i danesi. Cosa gliene porterà di conoscere? Ma sì, domani sono i danesi. Ci sono i danesi, Loretta si porta dei danesi. La cosa buffa è una che fa l'Erasmus in Olanda e poi si porta dei danesi. Mistero. Tu mi appuntamenti, io salvo. Allora, la frase che volevo commentare, su cui volevo fare un ragionamento ulteriore, era quindi questa: non esiste all'interno del linguaggio, non esiste nel linguaggio un atto essenziale e primitivo di significazione, ma soltanto al centro della rappresentazione quel potere che essa detiene di rappresentare se stessa, cioè di analizzarsi, giustapponendosi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, questo mi pare il caposaldo dell'analisi, dell'analisi foucaultiana sul linguaggio nell'età classica, nel XVII secolo. Lo ripeto, allora il punto fondamentale, secondo me, l'interpretazione che io do di questo passo è di questa impostazione, quindi è che Foucault individua, a mio parere correttamente, l'idea di rappresentazione che nasce nell'età classica come una autorappresentazione, cioè la rappresentazione si fonda su di un gesto di riflessione, di ripiegamento. Rappresentare dal 600 in poi significa in primo luogo autorappresentare. Quindi questa piega che lui dice, il linguaggio si situa proprio nello scarto che la rappresentazione stabilisce nei riguardi di se stesso. Questa idea di uno scarto, di una piega, di una differenza che succede, che si istituisce in un processo che è di autorappresentazione, cioè che in qualche maniera è interno al soggetto, ha due, come dire, possibili conseguenze. La prima è che evidentemente questo apre la porta, cioè apre la possibilità, non è l'unico modo di leggere o di sviluppare questa impostazione, ma sicuramente partendo da qui è possibile una impostazione che potremmo chiamare solipsista o idealista, sia del linguaggio che di tutte le attività mentali. Se lo strumento principale di costruzione e di rappresentazione del mondo, che è il linguaggio, anzi di creazione del mondo, che è il linguaggio, si basa su una capacità di autoriflessione, uno potrebbe concluderne che quindi tutto ciò che è importante, tutto ciò che è interessante avviene all'interno della mente, all'interno dell'essere umano, all'interno dei processi di soggettivazione, e che quindi al di fuori di questo non c'è altro. Questa è la tesi, non a caso, questa è la tesi di tutte le filosofie idealiste. Non a caso la prima filosofia idealista nasce proprio nel XVII secolo ed è enunciata dal vescovo Berkeley, il quale sostiene che esse est percipi, essere è essere percepito. Non esiste nulla che che è la variante radicale e solipsistica della tesi empirista. Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu, nulla sta nell'intelletto che prima non sia stato nei sensi. Questa è la tesi comune anche a Locke, a Hume, eccetera, ma Locke e Hume non si sognano neanche lontanamente di dire che il mondo esterno non esiste, mentre Berkeley dice se non c'è nulla nell'intelletto che prima non sia stato nei sensi, in realtà noi non abbiamo altra conoscenza che quella di ciò che i nostri sensi registrano. Ma chi ci dice che i nostri sensi davvero registrino qualcosa di esterno? Chi lo sa? Non lo sappiamo, anzi possiamo essere quasi sicuri che è la nostra sensazione, che è la nostra attività di percezione che crea l'essere. L'essere di per sé non esiste se non siamo noi che lo percepiamo. Un secolo e mezzo dopo, quasi due secoli dopo, in Germania, Fichte, Schelling e Hegel danno una apparenza più oggettiva a questa tesi, perché semplicemente allargano la nozione di soggettività, di soggetto, e la espandono dall'uomo a una sorta di misteriosa entità collettiva chiamata spirito, das Geist in tedesco, lo spirito è in pratica, diciamo, come Hegel racconterà, che tutta la storia del mondo non è altro che storia dello spirito che pensa a se stesso, che costruisce se stesso, che proietta al di fuori di se stesso delle cose pensando che siano fuori da sé, invece sono tutte dentro, diciamo, di lui. Allora, segnalo questo fatto, ovviamente io non voglio dire, cioè, io non credo affatto che questa sia la via per sviluppare questa teoria dell'autorappresentazione che dice Foucault, però è vero che questo modo di pensare, questo approccio del linguaggio come, diciamo più in generale, della rappresentazione come autorappresentazione, della facoltà di rappresentare come autorappresentare, questa cosa potrebbe portare a una visione di questo genere. Una visione di questo genere, cioè di come quella che ho detto prima, cioè è quella che di fatto ha portato alle filosofie idealistiche. Attenzione, il caso di Berkeley è vi ho citato Berkeley, perché Berkeley è un filosofo interessante, perché ci fa capire che non è affatto vero che l'idealismo sia una opzione di tipo, come dire, razionalistico o spiritualistico. Poi certo c'è la variante, la versione hegeliana è di tipo, come dire, spiritualistico, ma ci può essere anche un idealismo, per così dire, empiristico. Ci può essere anche un idealismo quasi positivista, insomma. C'è una variante, una versione dell'idealismo che è più o meno compatibile anche con opzioni non esplicitamente spiritualiste, nel senso, diciamo, del pensiero tradizionale. Sono sempre punti di vista, diciamo, criticabili, secondo me, che vanno comunque criticati, ma non è detto che non possano essere, che non siano, diciamo, possibili. La seconda conseguenza invece, sempre del concetto di facoltà di rappresentazione come autorappresentazione, è espressa abbastanza bene in questa frase che vi rileggo. Non esiste un atto essenziale e primitivo di significazione. Se la rappresentazione è principalmente autorappresentazione, ciò non significa che io, nell'istante in cui inizio, cioè, diciamo, nel primo gesto di ripiegamento del soggetto su se stesso e nell'atto della prima scoperta che io, soggetto, sono un pozzo di rappresentabilità, di possibilità di rappresentare. nel momento in cui io faccio questo non ho ancora rappresentato davvero, non ho ancora costruito il mondo positivamente. Il riconoscimento di essere in grado di rappresentare se stessi, cioè di parlare di se stessi, di costruire fenomeni ed eventi linguistici, non vuol dire che la conoscenza è data tutta ad un botto. Che la conoscenza sia data tutta ad un botto, o che ci sia stato un momento nella storia del mondo in cui la conoscenza c'era già tutta, è un'idea vecchissima ed è una tentazione a cui probabilmente l'uomo non potrà mai sfuggire, proprio perché è difficile concepire una potenzialità che non sia anche realizzata. Se io penso sono capace di fare questo, ho la tentazione di pensare che qualcun altro in qualche momento l'abbia già fatte le cose che faccio io. Se voi leggete i racconti di Borges, sono pieni di questa idea del fatto che un uomo sia tutti gli uomini, che non a caso Borges ama molto anche tutte le filosofie idealiste, cita moltissimo Berkeley, eccetera. Un uomo sia tutti gli uomini, che il mondo non sia altro che il sogno di qualcuno, ma che ci sia già, che sia dato, che sia il fiat lux di Geova nel Genesi, no? È questo, fiat mundus, ed ecco il mondo. Il linguaggio sembra avere questa potenzialità, questa possibilità magica. Il pensiero della destra, diciamo, tradizionale, della destra culturale, della destra anticapitalista, non della destra di governo, della destra dei fascisti, quelli veri, crudi, duri più, che non a caso hanno anch'essi una critica verso l'esistente, non solo la sinistra ce l'ha la critica verso l'esistente. Il pensiero della destra tradizionalista è pieno di robe di questo tipo. Un filosofo come René Guénon, uno scrittore come René Guénon, ha costruito tutta la sua cosa su questa idea. Ma l'idea è più vecchia ancora. Quando nasce la cultura classica greca, la filosofia greca fra il VI e il IV secolo a.C., i greci sono in gran parte convinti che ci sia stata una cultura, una civiltà precedente storicamente alla loro, quella egiziana, che era già dotata di tutta la conoscenza possibile del mondo e che loro, i greci, non facessero altro che tentare di recuperare brano a brano, pezzetto per pezzetto, delle cose che 2000 anni prima, per loro 2000 anni prima circa, gli egiziani già, diciamo, sapessero. Questa idea, che detta in questo modo è ovviamente per noi bizzarra eccetera, ma che è anche tutto sommato innocua, ovviamente la destra tradizionalista la rende molto molto più pericolosa, ma al fondo è questa, è la stessa idea, e cioè l'idea che esista un sapere arcaico completo e che la storia del mondo non sia nient'altro che un degrado continuo, diciamo che all'inizio ci sia la perfezione e che poi le cose si deteriorino mano a mano. Questa è l'idea opposta a quella della sinistra tradizionale, della sinistra comunista classica o socialdemocratica, che invece è di tipo sviluppista e progressista, e dice le cose migliorano sempre. Sono cazzate tutte e due. Come... all'agricoltura. Esatto, alcuni di loro sì. Alcuni di loro no, ma anche i più industrialisti, sono tutti convinti che le cose, cioè il progressismo, l'idea che ci sia il progresso, è che le cose secondo loro migliorano sempre, quindi la conoscenza aumenta sempre, il benessere aumenta sempre, si va dal meno al più. Ora, è chiaro che entrambi i paradigmi sono troppo semplificati e quindi sono stupidi entrambi, non c'è né un dal più al meno né un dal meno al più, ci sono fluttuazioni continue, andare e venire, siccome non c'è nessuno sviluppo, non c'è nessun disegno universale, né intelligente né poco intelligente nel mondo, nessun intelligent o stupid design, non c'è proprio, è chiaro che non c'è nessuna linea di questo tipo, né così né così, no? È chiaro. Però questa è una tentazione. Ma anche se le cose non stanno, allora, se le cose non stanno così, cioè se non c'è né un istante iniziale di conoscenza perfetta e poi un, come dire, degrado, ma neanche un istante, neanche uno stato finale di conoscenza perfetta, non c'è nessuna finalizzazione, non c'è, diciamo, da questo punto di vista c'aveva ragione Shakespeare nel Macbeth. Il mondo non ha senso, il mondo è il sogno di un idiota che farfuglia delle cose incomprensibili. La storia dell'uomo è questo, non c'ha nessun senso di per sé. E anche lì, ma prima ancora l'ha detto Shakespeare nel Macbeth, è una delle più famose battute di Shakespeare nel Macbeth. Il mondo è il sogno di un idiota che farfuglia parole incomprensibili. Detto questo, una tensione tra il momento in cui, diciamo, il linguaggio nasce, e non vorrei mai più che voi pensate che io vi suggerisco che il linguaggio sia nato in un momento preciso, non c'è questo momento, è ovvio, i processi sono tutti molto più lunghi. La discontinuità tra non linguaggio e, diciamo, linguaggio è impossibile da determinare sulla base della continuità di fondo più lunga. Ma c'è un momento, ci sono più momenti, non uno, ci sono più momenti in cui il linguaggio diventa cosciente di se stesso. Diciamo, quel momento che Foucault descrive nelle parole e le cose per quanto riguarda il 600 europeo, e altri scrittori, e altri filosofi, altri scrittori hanno scritto innumerevoli altre volte, diciamo in ogni momento in cui affiora la coscienza della potenzialità, diciamo, linguistica, affiora quindi l'idea che esiste un senso, perché ovviamente ogni atto e ogni gesto linguistico implica che all'interno di un sistema, perlomeno di quella parte del mondo che io sono in grado di coprire, di descrivere, di utilizzare con il, come dire, linguaggio, le cose abbiano un significato. Prima del linguaggio nulla ha significato. O meglio, nulla ha significato se non in un senso direttamente biologico. L'ambiente per un animale ha un significato, ma ha un significato nel senso che lui segue le sue regole istintuali e, a seconda di come le segue bene o male, a seconda della dotazione biologica che ha, sopravvive o no, sia in quanto individuo che in quanto specie. Ma questo non è il significato che noi intendiamo col termine significato linguistico. Allora, il momento nel quale nasce il significato è comunque un momento totale, ed è chiaramente discontinuo. Se io non ci ho pensato, c'è un momento nella vita di ciascuno di noi, uno o più momenti, quando dico un momento non vuol dire un solo momento, sarà successo anche tante volte, ma quando noi, in genere nel trapasso dall'infanzia all'adolescenza, ad un certo momento ci rendiamo conto che il mondo ha senso, che c'è una, sono le cose che abbiamo introiettato negli anni dell'infanzia, con i nostri genitori, con i nostri amici, con i nostri, tutto ci ha portato a quel momento aurorale dell'aurora, in cui qualcosa nasce per noi, nasce, noi non lo sappiamo in quel momento, ma nasce la nostra consapevolezza di essere esseri linguistici. E quindi le cose hanno un senso, le cose non avevano senso prima, per nulla, hanno un senso da quel momento in poi. Quando c'è la potenza. Quando si comprende che c'è la potenza. E ovviamente in questi casi comprendere che c'è vuol dire farla nascere. Se io non so che c'è, non nasce. Io posso parlare senza sapere di parlare, ma a un certo punto diventerò cosciente di parlare. Quindi io e noi diventiamo animali linguistici molto presto, molto prima dei 15 anni, dei 14, nasciamo animali linguistici nel momento in cui cominciamo a parlare. Però c'è un periodo di tempo più lungo, di vari anni, dipende poi da persona a persona, nel quale usiamo lo strumento senza esserne consapevoli. C'è un punto in cui arriva c'è una consapevolezza. Quando arriva la consapevolezza, il significato nasce d'un botto, è un fatto totale, nasce all'improvviso, non c'è continuità. Il significato non nasce poco a poco, nasce d'un botto. Ma i significati invece no. I significati nascono poco a poco. Nel momento in cui io mi rendo conto che l'universo ha un senso, non so che senso ha l'universo. So che ha un senso, ma non lo conosco, perché non ho ancora accumulato la conoscenza necessaria per sapere quale sia questo senso. E vi assicuro, vi posso dire, questo posso dall'alto della mia veneranda età, che è probabile che in questo momento non arrivi mai. Per me non è ancora arrivato. Io non so che senso abbia il mondo neanche a 65 anni. E credo che non lo saprò mai. Però mi comporto come facciamo tutti noi, ci comportiamo come se questo senso esistesse, perché siamo convinti che esista. È il senso, è la modalità del nostro essere linguistici, del nostro essere animali linguistici. Non possiamo fare a meno di pensare che il senso ci sia, ma non sappiamo quale sia. Sappiamo che la significazione esiste, ma non conosciamo i significati. Questa cosa venne espressa nel Novecento per la prima volta in modo molto chiaro da Claude Lévi-Strauss in uno scritto del 1950. Che era l'introduzione di Lévi-Strauss alla raccolta degli scritti di Marcel Mauss. Marcel Mauss era morto già da un pezzo, però in Francia si mettono insieme tutti gli scritti di Mauss, il Sabbio sul Dono, quelli sui poteri magici, insomma tutte le opere che Mauss aveva scritto nella sua vita, pubblicate in varie riviste, ma mai nei libri. Si riconosce che Mauss è... E Lévi-Strauss scrive l'introduzione in cui rende omaggio a Mauss, eccetera. E c'è in un pezzo di questa introduzione dice esattamente le cose che vi ho detto prima, adesso voi pensavate che fossero mie, invece no, vi ho solo fatto una parafrasi di quello che dice Lévi-Strauss, che lo dice grosso modo nei termini in cui l'ho detto io prima. Dice, il linguaggio ha questa, il linguaggio e le culture, lui parla delle culture, le culture umane hanno questa caratteristica paradossale, che introducono l'idea del significato e la introducono in maniera improvvisa e discontinua. Il significato, l'universo, dice Lévi-Strauss, ha significato una volta sola, per la prima volta, e nel momento in cui ce l'ha, è un fatto totale. Prima non ce l'aveva, dopo ce l'ha. Quindi, dice, l'idea della significazione, dice Foucault, è un processo discontinuo, istantaneo, puntiforme, localizzato. Lo dice in maniera ideale, non possiamo mai dire precisamente dove situare questo punto. Però è vero, diciamo, se diamo una versione debole della tesi di Lévi-Strauss, è vero che le cose acquistano significato da un momento all'altro. È come quello che gli psicologi della Gestalt chiamano il riorientamento gestaltico. Adesso non ce l'ho qua, ma ci sono tante figurine, tipo quel profilo che può sembrare il profilo di una coppa, o due profili di due persone affacciate, la vecchietta che sembra una giovane, il coniglio che sembra un coniglio o una verme, non so più cosa sembra, insomma, tutte queste figure, il cubo di Necker, che è il più semplice, cioè il cubo si può fare, sì, adesso non lo vedrete qua, se voi fate l'assonometria di un cubo, se guardate bene questo cubo vi apparirà una volta che questa è la faccia di dietro, una volta che questa è la faccia davanti. E non è un processo continuo, è un processo discreto, da una botta all'altra, ops, una volta così, una volta così, così, così. Quello è, questo è per Lévi-Strauss il processo della significazione. Allora, la significazione è un processo discreto, istantaneo, non continuo. Prima c'è, prima diciamo non c'è, dopo c'è. E totale. Cioè, il senso, quando io penso che le cose hanno un senso, non posso pensare che un pezzetto dell'universo per il momento non ce l'ha, dopo ce l'avrà. Ce l'ha, sono io che non so qual è, ma tutto ha un senso. Mentre il processo, il concreto processo di costruzione dei significati reali è un processo continuo, lento, progressivo, e non ha affatto le stesse caratteristiche della visione dell'universo come dotato di significato. Questo ha una conseguenza, secondo Lévi-Strauss, e la conseguenza è quella che esistono sempre più significanti dei significati disponibili. Questa tesi apparentemente è l'opposta di quella che Virno dice, espone nella conclusione del suo libro, Quando il verbo si fa carne, e cioè che l'eccedenza fondamentale è quella del mondo rispetto al linguaggio. Ma qui bisogna semplicemente fare attenzione alle parole. Quando Virno dice che c'è un'eccedenza del mondo rispetto al linguaggio, dice una cosa vera, come ovvio, ma questo non vuol dire che esiste un'eccedenza di significati rispetto ai significanti. Nel mondo descritto da Virno, nel concetto di mondo, i significati non esistono ancora. Siamo noi, è il processo culturale degli esseri umani, è la cultura che assegna i significati alle cose. Mentre io suppongo che il significato sia una funzione generale attribuibile a tutto quanto l'universo, io posso benissimo non conoscere il significato di una serie di cose, ma a quel punto la macchina linguistica, pur senza sormontare il mondo, cioè senza, sarebbe idealistica la tesi che il linguaggio fosse eccedente rispetto al mondo, ma il linguaggio è sempre eccedente rispetto ai suoi significati possibili, sì, o ai suoi significati realmente esistenti in un dato momento. Lévi-Strauss ricavava questa idea, che a me piace tanto da averla utilizzata in diversi scritti, anche sull'arte, diciamo, digitale, che lui chiama significante fluttuante o significante eccedente. Ovviamente l'ha usata prima di me, l'ha usata Giorgio Agamben in alcuni saggi degli anni 70, io in effetti l'ho presa da lui prima che da Lévi-Strauss, questa idea però a Lévi-Strauss derivava dalla sua pratica, o anche dalla sua non pratica, perché molto del lavoro di Lévi-Strauss non è diretto sul campo, ma è il commento di altri, sul terreno antropologico. Su che cosa si basava Lévi-Strauss? In vari scritti sia di antropologia strutturale, che lo trovate in qualche saggio, sì, sulla cultura dei Nambiquara o di altre popolazioni dell'Amazzonia, però è una pratica diffusa in tutte le culture, diciamo, sciamaniche. Molto spesso nelle culture, diciamo, sciamaniche, lo sciamano individua, quando cura una, come dire, malattia, non lo fa come il medico occidentale della nostra tradizione organicista, cioè non vede nella, come dire, malattia un processo limitato a quel particolare organismo, a quel corpo, affetto da una serie di disfunzioni, eccetera. Una malattia per la cultura sciamanica è sempre il sintomo di uno squilibrio tra l'individuo e il cosmo, e certe forze cosmiche. Nel bellissimo rituale del parto degli indigeni Cuna, che abitavano su alcune isole a largo del Venezuela, e su cui la Roberta Peveri un paio di anni fa ha fatto una tesi bella, in cui c'è anche una parte su questo diciamo, rituale qua. In questo rituale la cosa è chiarissima. Per fare partorire una donna Cuna, lo sciamano non fa nulla, non fa alcuna operazione manuale, non c'è mai quasi neanche una, certe volte c'è una rilevatrice, ma il ruolo medico del medico è semplicemente quello di disporre davanti al corpo della donna disposta per partorire una serie di statuette che rappresentano gli spiriti elementari su cui lui ha rapporti, e lui fa un viaggio totalmente metaforico, totalmente verbale, dentro la vagina della partoriente per estrarre il bimbo. Lo fa in una lingua sconosciuta, che nessun cuna capisce, che capisce solo lui, eccetera, eccetera. Ora, in questo modo il parto è un evento, non è una, come dire, malattia, però è comunque simile da questo punto di vista. Questo squilibrio particolare che si ha ogni volta che un essere umano viene al mondo, quindi che un corpo, diciamo, femminile, dopo una serie di trasformazioni che non sono soltanto chimiche, biochimiche, eccetera, ma sono più generalmente culturali, e che noi interpretiamo in maniera un po' riduttiva, insomma, come è tutto lo sguardo della scienza, che prende alcuni campi di funzionamento e li eleva all'unica cosa diciamo che abbia, come dire, significato. Per le culture sciamaniche il significato sta in altre cose, e quindi lui, attraverso una produzione verbale, ristabilisce. Quando c'è una malattia, la cosa è simile. Lo sciamano non cerca una causa, anzi ammette chiaramente di non conoscere la causa specifica di quella malattia, però sa che questo è il sintomo di qualche cosa che si è squilibrato. Allora, molto spesso lo sciamano in queste culture prende un oggettino, un sassolino, un pezzo di legno, a volte è solo un batuffolo di cotone, e lo mastica a lungo mentre dice le sue formule, mentre cerca verbalmente con il linguaggio di ricostruire questo equilibrio che si è perso tra il malato e il cosmo e tutto l'insieme del mondo, e lo mastica fino a che le gengive gli sanguinano, e quindi questo oggettino si macchia di sangue, questo batuffolo di cotone, quindi lui se lo tiene in bocca insanguinato. Poi a un certo punto si avvicina al malato e fa un gesto rapido. Attenzione, io so già che l'80% di voi ha già una parola in testa, che è truffa o illusione. Se. Lo prende, lo estrae dalla bocca ed è come se l'avesse estratto dal corpo del malato, in genere lo mostra agli astanti, e quello è il momento della guarigione. Ovviamente lo sciamano bravo fa questa cosa non a cazzo, cioè la fa quando lui sa che il malato sta veramente guarendo, perché nella sua tesi. Noi la vediamo, cioè, ma è un'illusione, magari, che ciarlatani, eccetera, ma se arrivasse Pierangela ci direbbe queste robe qua, è giusto, lo è tanto poco che spesso non si preoccupa neanche di nascondersi il malato, tutti quanti sanno che lui ha questa cosa in bocca, ma quella è effettivamente la causa più specifica di quella malattia. Una volta che l'equilibrio è stato, ristabilito, ecco che la causa diventa visibile. È una catena di pensiero che è totalmente il contrario della nostra. Nel modello causale razionalistico occidentale, per avere gli effetti bisogna agire sulle cause, quindi prima bisogna conoscere le cause. Una volta che hai conosciuto le cause, Newton, Leibniz, tutti questi qua, quando sai le cause, arrivi sulle cause e ottieni gli effetti, da monte a valle. Lo sciamano non conosce le cause all'inizio, e risolve il problema senza conoscere la causa, come dire, specifica, senza neppure conoscere quasi il sintomo. Una volta però che è stato in grado di fare una cura efficace, ecco che all'ultimo, come ultimo momento, la causa appare. Con un gesto intellettuale che a me pare di grande forza e che io ammiro, perché, insomma, che però alcuni posso ammettere di poter considerare un mero contorcimento concettuale, Lévi-Strauss dice, ecco, questo è il significante fluttuante. C'era un significante, la malattia deriva dal fatto che c'era uno scompenso nell'universo, c'era qualche cosa che esiste ma che noi non sapevamo che cosa fosse, non sapevamo che significato avesse. Nel momento in cui il malato guarisce, ecco che questa cosa acquista un significato, ma c'era da prima, noi non la vedevamo, la vediamo, il pezzettino, il sassolino, l'ossicino, il frammento di osso appuntito che ha urtato le gengive dello sciamano e le ha fatte sanguinare, questo oggetto banale, o un pezzettino di cotone, questo oggetto banale che era l'ultima causa, era l'ultimo sintomo, l'ultima nella catena causale che c'è anche nel pensiero delle società orali, che è quello che era responsabile l'ultimo diciamo dell'evento patologico, non era nient'altro che uno squilibrio, dice Lévi-Strauss, è chiaro che nessuno sciamano potrebbe pensarla in quel modo lì, lo pensa Lévi-Strauss, però a me pare le culture sciamaniche sono culture nelle quali l'esistenza dei significanti fluttuanti, cioè i significanti eccedenti che non abbiamo ancora accoppiato con dei, diciamo, significati, vengono gestiti in maniera non traumatica, cioè vengono ammessi, si riconosce l'esistenza di questi processi, sono processi naturalmente, che lo sciamano mostra sotto forma di, diciamo, oggetti, ma è chiaro anche per lui che sono dei processi. Sono dei processi che non sono altro, secondo Lévi-Strauss, che diciamo l'effetto di questo squilibrio tra l'attribuzione di un senso all'universo e la scoperta dei significati particolari. Questa discrasia, questo salto, questo iato, questa si potrebbe dire, Lévi-Strauss non lo dice ma lo dico io, questo potrebbe essere descritto anche con, cioè questo processo per cui a un certo punto si accoppia e questo iato viene chiuso, questa forbice viene chiusa, questo abisso viene colmato, o perlomeno viene gettato un ponte su questo abisso, si potrebbe dire che è una catacresi. L'antica figura retorica che dice Foucault stranamente, nel pensiero del Seicento, questo lo dico per Loretta perché so che è una cosa che le interessa, le tre grandi figure della retorica, secondo Foucault, quando analizza il linguaggio della modernità, sono sineddoche, metonimia e catacresi. No, ma vedi che sineddoche la mette diversa lui dalla metonimia. Sineddoche, metonimia e catacresi. O metafora, dice lui, se l'analogia è meno immediatamente percepibile. Infatti la catacresi è una specie di metafora, grosso modo, ma adesso questo sarebbe lungo discutere. Allora, c'è uno iato, c'è uno stacco, diciamo, tra significanti e significati. Si potrebbe dire pirandellianamente che abbiamo i sei significanti in cerca di un significato sarebbero, come i sei personaggi in cerca di autore, ma spesso l'autore non è il significato dei personaggi. In questo caso invece abbiamo un significante, uno o più significanti alla ricerca di un significato. L'esistenza di significanti eccedenti o di significanti fluttuanti è, secondo me, esattamente riconducibile a questa frase che dice prima Foucault. Non esiste un atto essenziale e primitivo di significazione. I significanti fluttuanti o i significanti eccedenti sono possibili esattamente perché c'è l'arbitrarietà del segno, perché il segno è arbitrario. Un significante fluttuante non poteva essere concepito dal pensiero antico, o dal pensiero medievale, o dal pensiero rinascimentale, da qualunque pensiero che vedeva le radici della rappresentazione in una corrispondenza tra linguaggio e mondo, oggettiva, dettata dalle regole delle cose. Un pensiero del significante fluttuante comincia a essere possibile nella cultura occidentale, in quelle, come dire, orali era già possibile per i cazzi loro, perché erano molto più avanti su certe cose di quanto non fosse, diciamo, l'Occidente, il che non vuol dire Dio me ne scampi liberi, che bisogna diventare buddisti, che poi non c'entra nulla con tutto ciò, neanche il buddismo, ma insomma, riconoscere che alcuni processi sociali sono gestiti meglio da certe culture che non da altre non vuol dire che poi bisogna adottare quelle in contesti differenti, perché è in pratica impossibile. Ma in qualche maniera il pensiero occidentale si è precluso a lungo la possibilità di comprendere questo scarto tra, come dire, significante e significato. A partire da un certo punto che Foucault ci racconta in questo libro, cioè quando si afferma l'idea della rappresentazione come autorappresentazione e quindi del linguaggio come abitatore di uno scarto tra le due pratiche, tra le varie pratiche rappresentative, è stato possibile ritornare anche, poter pensare anche a una eccedenza dei significanti sui significati. Eppure paradossalmente questa eccedenza dei significanti sui significati ha continuato a essere negata, o perlomeno a essere ostacolata dall'altro grande mito. Mi spiego meglio. Il fatto che la cultura occidentale a un certo punto abbia abbandonato l'idea di una causa materiale della rappresentazione e quindi abbia recuperato un'idea dell'arbitrarietà del linguaggio non ha fatto morire le teorie denotative del linguaggio. Le teorie denotative del, come dire, linguaggio, cioè il fatto che il linguaggio esiste esattamente per descrivere e catalogare fedelmente ciò che sta fuori di noi, che è il mondo, e quindi che l'ideale del linguaggio sia quello di raggiungere una corrispondenza biunivoca e totalizzante sull'insieme degli oggetti del mondo, dico oggetti sia fisici che mentali, è sopravvissuta a lungo, pur contrastando con l'idea dell'arbitrarietà del segno, contrastando totalmente, ma spesso abitando le stesse persone, diciamo, essendo esposta, essendo fatta propria dalle stesse persone che sostenevano l'arbitrarietà del segno, eppur contemporaneamente sostenevano una teoria denotativa del linguaggio, in primis dai neopositivisti logici del Novecento. Dal primo Wittgenstein, che per fortuna se ne liberò presto di questa idea, a Russell, a Carnap, ai logici, ai filosofi e ai linguisti sostenitori del fatto che, come dice Wittgenstein nella prima proposizione del Tractatus, il mondo è l'insieme dei fatti. Se il mondo è l'insieme dei fatti, la conseguenza è che il linguaggio, essendo uno strumento per descriverli, se anche provvisoriamente non ha raggiunto l'esaustività della descrizione, se anche ci sono zone del mondo che ancora non risultano descritte dal linguaggio, e anche se ci sono provvisoriamente zone di ambiguità, anche se il linguaggio ancora non è, il suo ideale, il suo scopo, lo scopo del linguaggio è quello di raggiungere questa comunicazione, questa descrizione perfetta, trasparente e assolutamente non ambigua del mondo. Questa idea, che è, lo so che è contro intuitivo dirlo in un'aula di una scuola italiana, però per fortuna sto in un'accademia d'arte, quindi forse su questo qualcosa di più posso essere forse capito un po' di più. È bizzarra questa idea, è bizzarrissima. È un'idea che non so come cazzo gli può venire in mente alla gente. Che il linguaggio abbia questa tensione, questa aspirazione a coprire il mondo come Urano copriva Gea nella mitologia greca, prima che Crono lo evirasse e quindi lo costringesse per il dolore ad alzarsi e a stare come sta adesso, cioè il cielo sopra la terra, poverino, no? Prima Urano era sempre sopra gli aerei, non poteva più. Per questo che ha detto la croce, farlo fuori, taglia di coglioni perché non ne posso più. Come si può pensare che una cosa così incasinata, così sporca, così confusa, così anche così bella, ma insomma cazzo, come il linguaggio possa essere lo strumento ideale per descrivere, catalogare, incasellare e mettere a posto il mondo. Il linguaggio, l'incasellamento del mondo che può fare il linguaggio, sono al massimo le scatoline di Cornell, le scatoline di Joseph Cornell, quelle in cui infilava dentro tutte le cosine, gli oggettini e le cose più pazze del mondo. Questo può fare il linguaggio. Come cazzo può il linguaggio? E infatti vedete che tutti quelli che hanno sostenuto le teorie denotative del linguaggio sono stati affascinati dai linguaggi artificiali, dalla logica, e per non parlare poi di quelli che sono venuti dopo, all'epoca di Raquel, Russell scrisse le sue robe, non c'era ancora l'informatica, insomma, quindi non c'erano ancora i linguaggi artificiali di programmazione, ma c'era l'algebra della logica di Boole, certo, quindi, e tutti affascinati dietro a questa cosa, e tutti questi a volere inscatolare, tagliare, metti le lingue naturali sul letto di Procuste e gli tagli via dei pezzi, dei piedi che non ci stanno, delle mani che non ci stanno, dei pezzi di testa, e li inserisci, cerchi di chiuderli dentro ste cazzo di scatolette dei linguaggi artificiali. I linguaggi artificiali, grazie al cazzo che non sono ambigui, devono dire a delle macchine quello che devono fare e sono molto efficienti in questo, ma non possono avere neppure lontanamente la ricchezza e le nuvolette di ambiguità che ogni frase del linguaggio nostro comune si porta dietro e che fa sì che voi potete imparare qualcosa da quello che dico io. Perché se le parole che io vi dico non avessero questo margine, questa nuvoletta, nel caso mio voi dite ce l'hanno sin troppe, va bene, capisco, è una critica che accetto, ok, però diciamo, fosse anche professori molto più strutturati di me, penso che anche Riccardo Notte quando parla abbia qualche nuvoletta, cioè anche lui avrà una qualche, anche no, Paolo Rosa sono sicuro che ha delle nuvole più grosse delle mie, insomma, ma diciamo quelli più specifici, più anche quelli che vi insegnano i linguaggi di programmazione, quando ve li insegnano nel loro linguaggio avranno un po' di queste nuvolette semantiche intorno, e sono queste nuvolette che vi consentono di fare qualcosa con quello che io vi dico, e di rielaborarlo, di pigliarti qualcosa e di vedere delle robe che io non ci vedo nelle cose che dico. Sicuramente voi vedete nelle cose che dico io cose che io non vedo, come questo è normalissimo, la stessa causa dell'equivoco della comunicazione è la causa della ricchezza comunicativa. Ma questo ovviamente esclude che il linguaggio umano sia riducibile o che sia desiderabile che il linguaggio umano abbia le stesse caratteristiche di un linguaggio artificiale. Adesso io vi lascio su questo interrogativo, che adesso vi formulo, ancora non ve l'ho formulato, ma vi dico che vi lascio su questo, perché mi servirà la prossima volta per parlarvi nell'ultima lezione, quindi di qualcosina delle teorie cosiddette degli atti linguistici. La domanda è questa, l'interrogativo. Allora, è chiaro che rispetto ai linguaggi artificiali, i linguaggi naturali perdono in chiarezza, trasparenza, obiettività, non c'è dubbio, perdono. Ma allora è possibile che l'uomo abbia, cioè, è sensato che si sia sviluppato nell'uomo uno strumento che tenderebbe verso quel, diciamo, risultato, e cosiddetto, però si perde, è 200.000 anni che si perde nella palude dell'ambiguità, del casino, della sovrapposizione semantica. Non ci può venire il dubbio che forse il linguaggio non sia affatto uno strumento di descrizione del mondo. E che siamo noi che ci illudiamo che il linguaggio serva prevalentemente a quello scopo. E proprio la sua sovrabbondanza, cioè l'insieme di significati, la grande quantità, o anche soltanto la possibilità di significanti fluttuanti, di significanti eccedenti, di significanti che non sappiamo che cosa vogliono dire, di cui non conosciamo il significato, che sia questo che ci fa pensare che se ci fosse una bella descrizione, una bella mappa, che se fosse come la famosa mappa 1-1 del territorio di cui parla Borges, no? Però sapete che Borges parla di questa mappa gigantesca, che i geografi dell'impero costituirono questa roba talmente precisa che aveva le stesse dimensioni del territorio. La mappa più precisa deve essere in scala 1-1, se in scala 1-2 già la più precisa. Ma giustamente ci dice Borges, una carta del genere non serve un cazzo perché sta sopra il territorio, infatti dice di questa carta ormai non esistono più che brandelli, perché la gente va calpestata, la gente deve camminare pure sulle cose, no? Quindi, come diceva Korzybski, in realtà la mappa non è il territorio. E allora non è possibile che sia questa concezione del linguaggio derivi proprio dalla sua sovrabbondanza, dalla sua potenzialità, ma che noi abbiamo... che noi, che una parte di noi, che coloro che sostengono le teorie denotative, abbiano immiserito questa cosa per formulare un ideale, un modello del linguaggio irraggiungibile, ma fondamentalmente falso, che quindi non sia vero che il linguaggio descrive il mondo, ma che il linguaggio sia un'altra cosa. Ora, siccome nella linguistica del Novecento, a partire da personaggi nella linguistica e nella logica e nella filosofia del Novecento, a partire da personaggi insospettabili come Gottlob Frege, fondatore della logica moderna, al secondo Wittgenstein e a una serie di altri linguisti, questa idea si è fatta strada e questo dubbio ha creato addirittura delle teorie del linguaggio in cui il linguaggio non serve per descrivere il mondo, ma il linguaggio è essenzialmente uno strumento per fare delle azioni, come fare cose con le parole. Se il linguaggio è una concezione del genere, cioè che il linguaggio abbia un'origine e una funzione prevalentemente performativa, cioè che serva a noi per fare delle cose e per far fare delle cose agli altri, è anche almeno logicamente più compatibile con la sua origine biologica. L'idea che gli esseri umani siano animali votati alla filosofia o alla descrizione del mondo, è stupida pure questa. I uguali sono animali come gli altri che si preoccupano prima di tutto di sopravvivere, prima di tutto si occupano di sopravvivere. E se un animale linguistico è fino adesso sopravvissuto abbastanza bene, vuol dire che prevalentemente il linguaggio si è rivelato una buona o mediocre, o comunque uno strumento di sopravvivenza. Il linguaggio ha forse degli scopi pratici, non degli scopi. Ed è soltanto la sovrabbondanza dei significanti che ci consente di pensare che no, che abbia altri significati, che serva per fare filosofie, o per scrivere romanzi, o per scrivere sceneggiature televisive, o per far parlare quelli del Grande Fratello o del Libro dei Famosi. No, il linguaggio probabilmente serve a cose molto più pratiche, molto più collegate con il linguaggio, è uno strumento d'azione. E allora questa è la teoria degli atti linguistici che esploreremo, nei limiti del possibile, nella prossima lezione, ma l'abbiamo preparata. Mai avuto tanti sms come oggi, ragazzi, non so se ce l'hanno tutti con me. Bello, eh? Ho fatto un accordo con... ho mandato un sms su e gli ho detto per una volta tanto, dico, fai una cosa carina. C'erano tre o quattro ricordi? Tre. Il quarto è bianco. Ciao. Grazie anche a te. Tanto tempo fa, ho la prima edizione. Questa è una. Può darsi che abbia aggiunto delle cose, non lo so, questo è uguale. Era carino, gli provocò un sacco di D'altra parte, Bibo è sempre stato più criticato dalla sinistra che non dalla destra, come ben sappiamo. Ma mi sono fatto dare un'aula più grande perché siete sempre tanti che... No, l'aula magna era con Belluccio, no? Quindi non si poteva. E Belluccio c'ha più gente di me, quindi... che ci posso fare? Allora, voi siete questi. Tutti quelli che non sono iscritti, ragazzi, fatevi, mettetevi a posto, cazzo, Nura. Io mi sono messa a posto. No, se non ci sei. Perché ti sei iscritta, ma non sei nell'elenco. Ma non lo so io perché, io gliel'ho detto a loro. Perché hai rubi libri. Perché? Rubi libri, questo? E ti va un culo per lo rubi. Dica di rubarli ai compagni, alle librerie dovete rubarli. La vetrina che non hanno più Anna Davolo perché le ha abitato, gli devo pagare a Roccaforte, quindi. A noi non ce ne frega nulla se le hanno venduto. Cosa? È aggiornata la lista? No, evidentemente no. La seconda lezione. Tu sei Ghidoni? Sì. Ma tu non hai fatto già lo scorso anno? Beh, potevi, se volevi dare l'esame potevi dirmelo e... No, se voglia. No, comunque quest'anno è molto diverso. Cambio pure da un anno all'altro, quindi vedi che non è che proprio segui lo stesso corso. È diversa sia la prima che la seconda. Eh no, perché ci sono le robe di linguistica di più. Quest'anno ha un taglio molto più linguistico, che lo scorso anno non aveva. Comunque tieni buoni quelli che hai detto anche prima, non è? Sì, va bene. Sì, però su tutta una parte che quest'anno ho fatto meno, invece ho fatto più linguistica. Però invece la seconda parte non è Dick ed è il mio libro sul cyborg. Cambia anche la seconda parte. Vecchio. È uscita la nuova edizione dello scorso anno, ma è un libro vecchissimo. Sì. Quest'anno è il cyborg, quello obbligatorio. Bene. Allora, la Turchia, come va la Turchia? Bene. Ciao, sì. Sei arrivato da poco, venga. Come va te? Ho fatto lezione adesso? Sì, ho fatto lezione, il fatto è che... Ho fatto sì, perché c'ho anche quelli di... C'ho anche quelli di Brea 1. Quindi ho 80... Quest'anno meno, quest'anno ho 120 iscritti, quest'anno ne ho 87. Senti, allora io parto domani sera c'è una roba in Conchetta, sabato vado a Roma. Ma domani ma stasera anche c'è una cosa sulla rivoluzione greca. Sì, no, ma questa sera devo andare a casa perché devo finire di scrivere delle robe. Va bene. Se ci vediamo. Se vieni a Conchetta domani, magari ci vediamo un attimo. Sì, io sono lì. Allora, la roba parte dalle 11. Dalle 11. No, sì. Comunque io sto lì perché devo fare una serie di recita in una cosa. E cioè c'è uno spettacolo di gente che campiona la mia voce, fa delle robe. Cioè. Però alle 11 prima. Sì, alle 11. Se passi mezz'ora prima mi trovi da un po' lì, se no dopo, insomma. No, tanto dura mezz'ora la cosa. Sì, facciamo così? Va bene. Ma tu a te ti dura tutto l'anno Erasmus? Adesso è finito ormai. Ah, è finito, perché hai fatto. Finisce, ah certo, a maggio, sì. Adesso finiranno un mese a girare una roba, ma poi dai, allora ne parliamo domani, ok? Ci sentiamo. Tu cosa fai, mo? Sto andando, non so, per fare ora per l'università. Ci vediamo ragazzi, ciao.